Nelle puntate precedenti. Allora, i nostri impavidi eroi sono. Mi dovete aiutare un po' con il riassunto. Sono arrivati sull'isola e fin qua non si piove. Ah, sì, ci sono, scusa, scusa. Allora. Dopo aver sconfitto le sirene, i nostri carissimi eroi hanno avuto 3 giornate di viaggio in cui hanno fatto un po' il cazzo che volevano. C'è chi si è allenato, c'è chi. Non lo so, che si è allenato, saremmo generici, chi ha pescato, chi ha preso il pesce, e anche chi ha pescato effettivamente una stella marina dai poteri a quanto pare diabolici. E invece un'altra persona ha pescato una ascia dai poteri magici a quanto pare. Martello. Martello. Martello. La pescata l'ha trovata La regina. intempestiva. È un L'ha suo modo di pescata malestra. pescare. Pescatore di uomini, lui è un pescatore di martelli, Gesù ok? Va Cristo bene. chi? Esatto. E comunque, sulla nave si va tutto bene. Scopriamo che appunto questa stella marina fa delle perle. E ok, hanno cose diaboliche, avete capito? Nemmeno. Comunque, arriviamo sull'isola. E appunto noi in verità dovremmo andare dall'altra parte, ma non abbiamo abbastanza carburante, quindi siamo fermati per fare rifornimento. Andiamo in chiesa, ci sistemiamo. Adone. Ah sì, scusami, da notare, siamo in debito di una mana unit. Che Che è tantissimo, tra vero? l'altro, Sì, vabbè. Tanti sono un soldi. sacco di soldi. Scrivo a Falchiera al Papi. Sugar Daddy. E Il mio padre, davvero, farò. bel E momento. vabbè. Per caso. Dopodiché, allora, Adone ha fatto la troia per procurarsi una piuma di pelstaia. Mif ha baciato sulla guancia Adone per vendere la cosa. Nibel ha provato il suo martello e ha scoperto più o meno le sue proprietà. A fine sessione abbiamo visto uno che veniva picchiato. Io sì, ho avuto un momento di eureka. E niente, adesso Nibel giustamente è andato a tirargli un cazzottone e quindi combattimento. Ok, volevo Credo sia uno degli mettere. insulti peggiori che abbia mai fatto. Non ho Sì, capito. proprio per questo adesso bisogna correggerti e ricominciare da capo. Non lo faremo. Apriamo il diario. Apriamo il diario. Altra cosa. Allora, sto facendo adesso il mercato perché non era così importante, probabilmente, però. Non disegno tutte le persone che ci sono nel cazzo di mercato, non ho voglia. Vi do. Un paio di informazioni aggiuntive rispetto a quello che ha detto Sirio, che sono alcune cose che ho già detto, altre cose che sono rilevanti adesso. Ed è che potevi farlo più grande, perché secondo me non era abbastanza grande. No, Non dovevi vedo metterlo bianco. praticamente. Lo devi Più mettere grande non ci bianco sta perché sei bene, blu. giusto. Sì, troppo grande non Puoi ci andare a sta. capo, Eh però. sì, però. Ovviamente questo era un. E no, è che nessuno l'aveva più. Ok, molto, molto meglio. Giusto. Ce l'ho in papyrus. Papyrus. No, non c'è Papyrus! È Vabbè, bianco scusate. perché pure è razzista, quindi i neri non li Certo. sfoglierà un po', Oh, quindi molto, dai. molto Molto meglio. meglio. Dai. Vogliamo Infatti noi andare. questo qua lo andiamo a salvare per poi pestare di nuovo. No, niente. Eccoci qua. Andiamo Dicevo, l'uomo a terra che è stato scaraventato per terra dall'energumeno ha un vestito molto colorato. I colori principali sono rosso, bianco e verde, però è tipo arlecchinesco, no? Tutti patches molto colorati. Sì, non fare domande. E ha una borsa con sé, ma per il resto è un tizio, cioè abbastanza scuro di pelle, non poc, ma abbronzato, pieno di nei in faccia, normale, I guess. Il tizio grande e grosso invece è un local, quindi ha i tratti leggermente squadrati. Qua la gente vedrete che ha tutti la faccia un po' teutonica, nonostante siamo dall'altro lato del mondo rispetto alla Germania, però è un po' quella faccia lì. Relativamente abbronzato, anche lui olivastra la pelle. Ha abiti normali, cioè gli abiti tipici del posto sono gli abiti da Esbita, sono quelli che erano in vendita al mercato di colore. Quello che c'è con la lana, quindi grigio, marrone o nero. la crowd che avete intorno, e in tanti si sono girati a guardarvi, non tutti, è formata da una quindicina di persone, e guardandoci un occhio ci sono due persone, quelle che ho segnato, che danno nell'occhio perché hanno questo vestito qua, che io mi auguro si veda. Hanno un buffo cappello molto grande con delle robe nere che scendono, hanno le spalle scoperte e per il resto gli abiti sono lunghi, e anche questi sono di colore grigio fondamentalmente. L'ultima sessione l'abbiamo lasciata durante il turno di Nibel e del tizio, quindi loro hanno agito, il tizio ha tirato una testata a Nibel, Nibel gli ha tirato un pugno in faccia. Avevi già rollato i danni? Chiedo. Non mi pare. Allora puoi rollare i danni di un tuo pugno. Adone, tu eri vicino a me. Mi sposto. Allora, fammi vedere com'è che funzionava. Intanto... Il sistema tipo il microfono, serio. Intanto voi tre potete decidere cosa fare. Cioè, se intervenire, se farvi gli affari vostri. Mi giro e cammino dall'altra parte. È legittimo. Ho più 6, quindi 8. Allora lo missi così. Lo missi. Se l'aspettava che rispondessi, e quindi con un gesto di Reni. Unless uso prowess. Sì. Vai. Non so da fare. Mi spiace. Tocca a loro. Se tocca a me, posso andare se non avete niente. Sì, sì, vai. A questo punto mi giro e vedendo cosa ha fatto Nibel, decido di aiutarlo e casto Yu-Yu su Nibel. Prima volta che viene utilizzato per il suo senso. Sì, sì, sì, è vero, stavo pensando alla stessa cosa. Ti scalo il mana, ma per il resto va tutto bene. Sì, allora, cioè Nibel volendo potrebbe resistere a questo incantesimo, ma... Nibel, vuoi dei PV in più? Ma non mi servono, cioè se era il mio turno questo in realtà avrei anche un altro attacco. No, avevi un'azione sola per quel turno. Ok, allora non lo so quali sono le opzioni. Yu-Yu ti aumenta i PV massimi e ti riduce di 1 la velocità di movimento. Ti aumenta di un bel po' i punti vita. Ma a me non servono, c'ho 39. Ti dà 20 punti vita extra e basta. Ah, e alla fine di ogni tuo turno recuperi un punto vita. È il Tregen. Vedi tu se vuoi farlo su qualcun altro, perché c'è un momento che non serve. E ormai l'ha lanciata. Basta. Sei tu in combattimento, io sto aiutando te. Poi tanto noi ci staremo a distanza. Sei tu che adesso... 20 sono allora. Sì, 20 punti vita temporanei sono. Finché hai questi punti vita temporanei, i danni da fuoco che subisci sono raddoppiati. Stiamo scommettendo sul fatto che questi non vadano in giro con delle bombe incendiarie. Sì. Dove mi disegno? Ti ha nerfato, letteralmente. Nieto, non cattare palla di fuoco! Però te li puoi segnare... Questo personaggio ha un bottone rosso. O a parte... o a parte oppure su Roll20. Cioè, a parte dico. Sì, no, dico. Sì, sì. Me li segno sulla scheda al posto dei PF Max. Sì. Poi c'è anche il mana massimo che non uso. Sì. Tra l'altro sono in movimento. Che cala? Hai detto che cala? Si scende di uno, ma non starà a segnarlo. Cioè, lo sappiamo e basta. Perché segnarlo è un casino. Siro, questa è un'azione base. Ti ho segnato l'esperienza. Ah, ti ho segnato il mana, ora devi dirmi tu se vuoi fare un'altra azione base o un'azione extra. Sì, mi casto Future Glimpse. Sono due spell, non sei witch, vero? Ah, è vero, che porca O la tua classe speciale ti permette di farlo? No, facciamo sempre ogni volta questo discorso. No, aspetta, sono io ritardato. Perché a una certa te lo fa fare anche la tua classe, però non mi ricordo a che livello. No, non a te. Aspetta che io mi fido poco di te, senza offesa. puoi usare una magia base, una magia extra per turno. Cioè, puoi farlo, ma devono essere una extra e una base. Quindi puoi castare Future Glimpse. Ok, perfetto. Hai più... sì. E quindi hai Future Glimpse attivo, te lo segno. E hai più 2 velocità di movimento. Perfetto. Quindi se ti muovi ti puoi muovere di 6, oppure te lo tieni per il prossimo turno in cui ti vorrai muovere. E direi che sono a posto così. Perfetto. O Mif o Lieto? Scegli te, Lieto. Vabbè, vado io. E Lieto si gira, vede Deos che sta... Vede Os. Sì, Os, no, Os è sopra, cioè la faccia di Os, la faraino è sotto, c'è Nibel. E vedo Nibel che lo manca con il suo pugno e tipo, oh, finalmente ci si diverte! E tipo, si lancia a prendere a cazzotti anche lui il tipo. Bello, cioè lo meni a pugni proprio. Ma... sì. Ok, interessante. Che fatto, anzi, sì, la meridiana di Kronos, però dal lato Dal, non dal lato Pointy. Cos'è, una mazza? È una lancia Dal? No, è comunque una lancia. Una lancia. Quindi guadagni esperienza nell'usare le lance. Di 10, prego. Io assumo che tu non stia attaccando Nibel, stia attaccando il tizio. Io sto attaccando il tizio, non okay. Nibel. Anni. Ho avuto questa visione. Quanta precisione totale per sta scazzata? Più 3. Sì, hai fatto 9. Lo missi. È molto agile costui. È molto agile costui. Sì. Va bene. Però guadagni un punto esperienza lance. Azione base per muoverti verso di lui. Azione base per attaccare. Hai un'azione extra. Non so se ne hai. Non mi viene in mente niente da fare di utile in questo momento. Ci sta, è plausibile. Mif. Ottimo, proviamoci. Provo a castare Emotional Power, così non spavento tutti. Non mi faccio vedere che lo casto, cioè sì, utilizzo sì. L'artefatto. Quindi sono molto tranquilla, braccia incrociate, e provo a pingarlo. Allora. È 5 più M più livello, quindi 5 più 4 fa 9, più 4 fa 13. Un po' bassino, effettivamente. Di roll. Non mi ricordo. Ah, non c'ho un cazzo, c'è più 0, bene. Ho fatto 1, totale, sommando il mio bonus al risultato del dado. Perfetto, sono witch, posso capire. E adesso gli faccio male. Sempre i power e dovrebbe essere infliggi SD6 danni da oscurità. Ho 4, quindi sono 4 di 6. Aspetta, quanto se non hai mai usato il mana mi sa che hai di più, perché dovresti avere quello che c'hai, cioè, mind power. No. Sì, ma non è su No, sì, mi confondo con quell'altra. Niente, hai ragione. Infatti non è su Terrify. Sì. Quindi dovrebbero essere 6 di 6. Sì, mi pare di sì. No, che cazzo dico? 4 di 6. 4, sì, perché 3 più 1, 3 più 1. Non è speciale più 1, è dialettica più 1. Sì. 4 di 6. Danni da oscurità, non ho nulla. Prende un danni pulitissimi. Sto riguardando. Ok. E niente, mi comunque sempre a braccia concerte. Qual è la reazione di sto stronzo? Allora, sì, tanto è il tuo turno, quindi te lo posso anche dire. Hai usato i power per spaventarlo? No, cioè, che sì, per spaventarlo e poi per fargli male. Okay. Adesso mi devo togliere il mana e segnati l'esperienza. Sì. Quando lo spaventi, flincia, cioè fa un mezzo passo all'indietro, come se avesse visto un mostro marino, suppongo, e si gira intorno gridando: non mi date una mano? No. Mentre dice questa cosa gli arriva il tuo proiettile mentale, fondamentalmente quella cosa lì è un burst psichico, e quindi niente, blanca per una frazione di secondo. Tocca a lui, che deve rimuoversi il fear. E 9, quant'era la difficoltà? 13. 13, meno 2 perché il secondo tiro è 11. Ho fatto 9, non basta, rimane feared. Quindi durante il suo turno l'unica cosa che può fare è muoversi in direzione opposta a Mif. Sì. E si muove qua. Ok. I due tizi ai quali stava urlando fanno un passo avanti. Non sono animosi, cioè sono tranquilli con questi buffi cappelli. E parlano con quelli più vicini, quindi stanno guardando Nibel e Lieto. Sono un uomo e una donna. E è la donna a parlare e a dire: il signore per terra ci deve dei soldi. Stiamo solamente facendo quadrare i conti. Adone non è lì, sono con Nibel. Allora, io sono entrato perché ho visto lui tirargli un pugno. Non mi interessa, ok. Raga, però per favore rispondete qualcosa quando ci sono queste situazioni. Nibel è stoicamente in silenzio. Anibel sta sanguinando il naso in questo momento e dice: è la prima cosa che fa il tuo amico è tirare la testata alla gente. È pagato per fare la guardia del corpo e far pagare chi deve pagare. Se ha un temperamento molto caloroso. Ci è capitato su terraferma di beccare più di una volta situazioni di abuso di potere. E generalmente abbiamo sempre cercato di fare a meno che le cose andassero per il verso sbagliato. A meno che non siamo noi quelli che la fanno andare per il verso sbagliato. Cioè, quindi sempre. Per evitare di fare di nuovo un passo di troppo, attenderò che i miei compagni decidano il da farsi. Potete unirvi se volete parlare. Ok. Il tipo per io terra per si è rialzato. Se vuoi attaccare, puoi attaccare e fregartene tutta questa cosa che stiamo facendo. Gli tiro una bastonata in testa all'altro tipo. Quello che è appena rimasto. Cioè, quello che si è appena rialzato. Per quello terra, che ha detto... Ah, ok. No, no, no, quello che è arrivato da Nibel gli ha detto: no, ma volevo solo i soldi. È una tipa, scusa, bonk. Sì, sì, sì. Di 10 per colpire, 2 di 10 perché non se lo aspetta. Oh mio Dio. 4. Wow. Quanto è di bonus? Avevamo detto più 3. 3. 3, 3, 3, 1, 8. 7. Il vestito è così baggy che non capisci dove sia di preciso. Quindi prendi i vestiti, cioè prendi una parte dove non c'è il suo corpo. Sono solo vestiti in quella parte lì. Gli fai un bel swish. Lei reagisce a questa cosa qua, ovviamente. E commenta sorniona: un po' speravo lo facessi. Genera quasi dal nulla un filamento sul braccio e ti frusta con quello. Counter spell. Vaffanculo, siamola. Come non è una magia. Niente dietro. Mi spiace. Nove mi sa che mi sa lieto. Vero? Ma mi Mif ci ha provato, però. 10. Quindi è la sagra del Swish. Super Swish. Che figata. Che era il meme quello che faceva attento. Che c'era la lancia e schivava. Bellissimo. Sì, il meme dello Swish. Ha usato un'azione per avvicinare. No, ho usato un'azione per attaccare. Ho un'altra azione. Qua, se vuoi, puoi fare counterspell. Sta lanciando una magia non meglio identificata verso il suo alleato. Sì, sì, facciamolo. Facciamolo. Devo rollare io, vero? No, rolli tu con counterspell. Vai, vai, vai. Devo capire cosa rollare. Basta che non fai uno. 3 più. Oh. Sei full vita e non hai mai. Che dato devo rollare? Di 10. Ok. ricordi quando ho detto basta che non fai uno? Senti, me l'hai gufata, porca troia. È il secondo uno della serata, ne ho già fatto uno anch'io. La cosa divertente è difficoltà pari ai tuoi PV mancanti, più due. Per ogni malus... No. Perché Counterspell è così? Funziona così, Counterspell. Ah, ok, sì. Recuperi due fatica, però, nel caso avesse fatica. No. Non è castata, credo. Aspetta. Non è castata. Non lo so. In realtà entra perché tu hai più 3 da dialettica e più 4 dalla tua stronzata. Sì. Quindi in realtà hai fatto 7 facendo 1. Sì. Quindi in realtà Counterspell è anche questo. Sì, ci sta. Fallendo miseramente. Bastava meno 5 a quanto pare. Devi toglierti il mana, gli usi di Counterspell e guadagni esperienza in stregoneria. Ok, non so partito. Mi metto prima la stregoneria. 22. Era quello. Spero. Vale. Una roba di Cyberpunk. La teniamo. Nicky Park. La teniamo. Lady Doubt. Lady Doubt. Sembrava stesse facendo fluire qualcosa dal suo braccio. Una magia naturale per voi. Che siete un po' acchini con questa roba qua. E sparisce. Quindi semplicemente fa. Non fa niente. L'altro, che non aveva ancora agito, quindi tocca a lui, si sposta qua e colpisce con un altro tentacolo lieto. Cioè, tenta di colpirlo, vediamo come va. Missa lieto anche quell'altro. Non fa bene. È uno spettacolo. Esatto. Lieto ha tirato su gli animi, quindi inizio a fare il turn order. In realtà nessuno ha ancora subito neanche un danno, poi per naso di Nibel. Sì, effettivamente. Esatto. Sì. Intanto, cioè, ma Adone si è avvicinato, Adone è a fianco a Mif. Adone è sempre lì di fianco a te. Sì. Ah, ok, perché vedi sempre Mif con le braccia incrociate tranquillissima, no? Un tizio si è spaventato, si è fatto del male, quest'altra, puff, magia a caso. C'è altra gente attorno a noi oppure ci sono diradati? Se ne sono andati in tanti, rimane qualche curioso e la gente che ha il banchetto lì vicino, che ovviamente non è che prende e porta via armi e bagagli. Ovvio. Non sembrano troppo sorpresi da questo genere di cose. Io avrei solo una domanda. Il tizio che staremmo difendendo dov'è? Lì per terra si è appena tirato su, si sta pulendo i vestiti. Vedendo che loro hanno iniziato a combattere, è rimasto fermo, tipo, cosa devo fare? Adone vorrebbe provare a parlare ancora un'altra volta, a parlare se può. Devi convincere loro che Lieto non li picchierà. Che è molto difficile, perché Lieto li picchierà sicuramente. È vero. Che cazzo dico a fare? Vabbè, scusami, mi pinghi qual è il tizio? Il tizio è questo qua, quello colorato. Pingas. Quello bianco? Sì. Te lo faccio rosso, okay. Così almeno... In realtà è peggio, te lo faccio... No, lascialo bianco! Sembra morto, rosso, poverino. Io andrei dal tizio per tirarlo da parte. Tirarlo da parte è un'azione? O lo posso portare con me? Puoi avvicinarti e dirgli vieni con me e spenderai tutto il tuo movimento per farlo venire con te. Sì. Ok, allora guarda, semplicemente vorrei spostarmi da qua a mettermi qua. Davanti a quello che era spaventato. Che è Underfear. No, aspetta, hai ragione. Fatto mi fa. Esatto, Underfear. Vabbè, mettiamoci qua. Ok. Hai un'azione in movimento, è questa. Se vuoi fare un'altra azione, dimmi cosa vuoi fare. Dico, spavento ancora di più il tizio, lo faccio pisciare addosso, non credo. No, vabbè. Se vuoi parlare, faccio il resto del turno e poi parli. No, credo che a questo punto mi giro verso gli altri e casto familiar, cioè vai. Familiar. L'avevo già tirato fuori, segnati solamente il mana. Ok, quanto mana ho usato? 2. Hai usato 2 di coso e ora quello del famiglio che mi pare sia di nuovo 2. Sì. Sì. Ma ho finito il mana? È probabile, hai 4. Sì, hai finito il mana, hai usato 1 di fatica. Ok. Non è un problema, eh. Cioè, lo sai. Sì, perfetto. E ok. Tocca al famiglio. Sì, perché basta, ho fatto tutto. E faccio il famiglio, attacca la tizia con... La tizia, che è quella sopra. Di 10 per sì. colpire. Entra, tira i danni del famiglio che sono un D4. Sì. Wow. Max damage. Il coniglio le si avventa su una gamba e inizia a strapparle i vestiti che ha. Quindi si squarcia questo bel abito lungo che ha e le graffia la gamba. Facciamo iniziare a sanguinare. Io qua nell'ordine ho Nibel. Ok, azione extra, uso overpower, aumenta la massa muscolare di Nibel e poi tiro un cazzotto in faccia al tizio che c'ho qua davanti. Perfetto, vai. Ho messo rosa e blu per farvi capire chi è il maschio e chi è la femmina. Quello rosa è quel maschio, vero? Sì. Tiro 4 per vedere il numero di turni. No, S di 4 è un numero di D4 oppure S più di 4? D4, è un numero di D4. S o? È dialettica più 1, è quello riga 17. Ok, quindi ho 3, quindi 3 di 4 tirare. Vai, via la durata, se non sbaglio. 10 turni, ok, direi che è sufficiente. Aumenta fisico la mente di 2, quindi arriva a 6. Ok, quindi tiro un cazzotto che c'ha più 8. Quindi 11 faccio. Di per colpire? Sì. Ok, entra. Tira i danni. Danni sono 3 più metà di cosa dovrebbe essere 7, mi pare. Più 3. Mentre Laura attiva aumenta i danni dei tuoi attacchi senza armi di metà del tuo rosso, quindi 3. Ah sì, scusa. Perché sì, sì, 3 più 3 è 6. Gli tiri un pugno, scegli tu dove. Proprio in faccia? In faccia, sì. Tiro un cazzo ti fa. Non sto cercando di ammazzarlo, comunque sono. Okay. Cioè, non ho... disse dopo aver tirato un cartone, però non sto cercando di ammazzarlo. Sono danni non letali. Non voglio partire dal male. Pum, pum. Esatto. Come lo vedo? L'uomo è molto più magro di te, quindi il tuo pugno gli fa un male cane. Gli spacchi il naso e glielo fai sanguinare molto più che a te, e il cappello gli si storce, cioè gli sta per cadere, e iniziate a vedere capelli neri eccetera, e infatti si riaffretta a rimetterlo a posto. Poi gli dico, dopo che gli ho tirato il pugno, dico: mi spiace, il mio amico ha deciso, e gli tiro un calcio nello stomaco. 10 per colpire. Wow. 11 di nuovo. Sì, entra come prima. Stessi danni di prima, sei danni ancora. Si inginocchia a terra per il colpo nello stomaco così forte e sputa sangue perché è quello che gli è uscito dal naso. Fine del tuo turno? Dimmi te. Sì, perché sì, l'azione extra l'ho usata, quindi non posso fare sprint, mi sa. Tocca al tizio spaventato. Sì, richiede l'azione. Vai. Com'è possibile che tocchi ancora lui? Ha fatto 3 giri. Il noi tizio abbiamo... cosa ha preso per primo. Pure. Quindi questo è l'inizio del terzo giro e agisce per primo. E allora ho saltato un giro di danno. Può essere. Vuoi fare il tuo turno e poi lui rimane... È andato a Doni, ma non è neanche andato a Doni. Cioè... Sì. Perché hanno fatto due giri loro in più, in realtà. Hanno interrotto il fight iniziato... e poi il Lieto ne ha iniziato un altro. Ok, ok, ho capito. Ho saltato un giro sì, allora. Sì, anch'io ho fatto una roba in meno. Ok, quindi posso fargli un altro giro di danni, poi tu fai... Ok, allora sono 4 di 6. Vai, non ho modo di evitarli. 12. Prendo 12 danni. Still standing, è ancora bello, vivo, ancora vivo. È bello grosso, È il loro nivel. Non preoccuparti, ti verrà falciato. Finisce il tuo turno? Adesso può fare, Ok. Dai, Il tizio si toglie il fear e, riprendendo i sensi, si accorge che davanti a sé ha una ragazza. Oggettivamente è una ragazza. E un tizio vestito come un pirla. E decide di fare quello che si fa quando davanti hai... una ragazza e un tizio vestito come un pirla, cioè prendergli le teste e sbattergli una contro l'altra da dietro. Posso usare Future Glimpse per renderglielo svantaggioso? Hai le stack da prima? Sì, allora non le usate. Sì. Allora, lui si casta Overpower, come ha fatto Nibel. Questo farà male. Dura 6 turni, quindi in realtà credo che lo ucciderete molto prima che finisca questo effetto, non lo sto a segnare. È in overpower e è un tiro per colpire. Tiro 2 di 10 e prendo il peggiore. Funziona così. Sì. Prendo il 2, ho più 8, faccio 10. Quanto hai di evasione? Non mi ricordo mai. Sì, ci fanno vedere. Hai 9. Ah, 9. Sì, il tizio con te anche lui ha 9. Per cui ti accorgi che sta per succedere questa cosa, ti giri in modo da vedere la sua mano sulla tua faccia che ti sbatte la testa contro quell'altro. E non fa malissimo, ti dico questo. Ti fa 4 danni. Aia. E fa 5 danni all'altro tizio che viene atterrato di nuovo. E dimmi. No, io sono una domanda, perché c'ho massimi punti vita 28 e attuali 29? Perché hai preso uno di fatica. Ah, ok. Quindi, no, ok, ma massimi 28 e attuali 29, sono, mi faccio valori... averne più di massimi. Puoi averne qua. Ok, perfetto, a posto. Quelli extra sarebbero temporanei. Okay, okay, quando scendono diventano temporanei. Non è rilevante per nessuna meccanica, quindi che sti cazzi. Allora, dopo questo mi toccherebbe a Lieto, però il tizio che è appena finito per terra non ha mai agito, quindi faccio andare lui, cioè entra in combat adesso. E sono molto contento che ci siate tutti qua, perché... posso raccontarvi una storia. Il tizio per terra sta sanguinando e notate che il suo sangue ha un colore molto scuro. Oh no. Un colore molto scuro, tendente al nero. Tant'è che prende questo sangue, lo stringe nella mano, quando la riapre ha un cubo nero e lancia questo cubo al tizio. È una magia? Sì, è un... Allora, potete fare un roll di arcano per capire che cos'è. Quello che vedete è che il cubo si trasforma in un animale non meglio definito interamente black, cioè proprio che sfida la luce, eccetera, eccetera, vanta black, e fa 10 danni al tizio, ma avete notato non c'erano tiri salvezza. E ho fatto 12 nel canal, se poi ti serve. Faccio anch'io, dai. Sì, e no, questa dai, roba nera gli entra nella pelle dopo averlo colpito. Posso fare Future Glimpse e c'ho più 7 in arcano comunque, quindi... Non ho ancora stato il tuo turno, quindi c'hai ancora la stack, puoi rollare gratuitamente. 9. Migliorato! Io non tiro, non c'è senso. Quanto hai fatto? Beh, comunque vediamo la scena, dopo... Infatti. Ok, dopo vi spiego che cosa avete percepito. Durante i vostri turni, uno per uno, il tizio è quasi morto, cioè... è veramente low life. Tocca a Lieto. Quello che percepisci è una forma di magia, che è indubitabilmente una forma di magia dal tuo punto di vista, che non hai mai visto prima. Ormai sta diventando un leitmotiv ricorrente, anche un po' fastidioso, Tipo, non finisce mai questa cosa. Con la differenza che quando hai visto la magia diabolica, demoniaca, eccetera, potevi dire a cosa assomigliavano. Questo non assomiglia a niente del genere. Cioè, proprio è... Cazzo roba strana. È un cubo, bello. È un cubo. Vabbè. Prefato 12. l'effetto secondario del cubo, dopo avergli fatto danno, è che aumenta i danni che subisce il tizio. Riesce a percepire questa cosa qua. Lo rende suscettibile ai danni. Ok, ok. E... boh, io gli do un'altra ammazzata al tipo davanti, cioè... alla tipa? No, al tipo, al blu, quello accanto a Nibel. Ok, allora è un altro quello. Vai. Stiamo farmando lancia oggi. Rolla di nuovo, pezzo di merda. Sono tutto è un 18. Entra, tira i danni. Stai usando la meridiana, che non ti ho mai detto quanti danni fa. Esatto, no. Ho scopo oggi che una lancia, nel senso che la fai ricadere sotto la... ricadere lancia. E... hai presente la canzone di Caparezza? Quella... la freccia che ho nella pancia è una meridiana? Basata su quella. Pensavo... mi piacciono le donne che sono di Merluzzo. Magari, no, quella è l'arma segreta che sbloccherete alla fine di questa avventura ad Esboson. Fammi un attimo vedere quale cazzo è di queste. Questa qua, un D8 danni perforanti. Se la usi con la punta, se la usi con l'altro lato ti faccio un D6 danni da impatto. Scegli te. Questa fievo alle sue. Questa era una brawl da bar per Lieto. Cioè non... sì, il tizio che era già in ginocchio, gli tiri un colpo sulla nuca praticamente, cade a terra, completamente spiaccicato per terra, però ancora vivo, cioè ancora sveglio. Ok. Hai usato un'azione base, quindi hai ancora un'azione extra e un'azione base. Che cazzo c'ho di azioni extra... Fisher Glimpse sempre. Blade Rain più un lancio di una lama è un'azione base. Sì. Extra. Azione base. Sì. Sì, vabbè, mi piace Blade Rain. E cos'era un D6 per vedere quante ne faccio? Non mi ricordo. Mai. No, ne crei un numero 4. No. Crei 4. Ah, e sono spade a questo giro. Puoi scegliere. Che ontica mi ha rivelata. Puoi fare anche la lancia. Puoi fare anche la... cioè, la lancia è quella speciale. Quella spada è quella normale. Ormai stai farmando lancia. Lancia sia. Di 10 per colpire, stavolta hai più 5, perché c'hai il bonus la lancia. 13 lo colpisci, tira i danni, è un D8. E lo dico più, non vuole essere un danno letale. Sì, fai 8 e lo deciderò io, quello. 5, non è un danno letale. Ok, l'ho detto prima perché mi sembrava giusto. Sì. No, ma non sei tu a decidere se una lancia che fa 40 danni lo uccide o meno. Ok, voglio che sia chiaro. Non è di... no, no, però nel senso, se ti metto 40 danni in ginocchio, perdi il ginocchio. Sì. Ci sta. Cioè, deve essere questo. Era già a terra, la lancia gli dà il colpo di grazia e perde i sensi. Gli hai trafitto un polmone, probabilmente, o qualcosa del genere. Ti segno l'esperienza, sia lancia che ontica qua. Ti ho segnato tutto io, ti devo segnare il mana. Era la prima spell che usavi? Sì. La prima spell che usavo si va tolto dal mana. A proposito di mana, lo devo calcolare? Cioè, non so se Lito l'ha fatto già, perché sto usando i libri io e non abbiamo calcolato il mana. Non te li ho resettati. Se vuoi usare i libri, puoi considerarli resettati durante il viaggio in mare. Sì, infatti stavo già utilizzando, perché effettivamente sì. Ho dato un'occhiata al mana solo adesso che ho poco di libri. Sì. Quindi... e aveva più 2 S, in realtà. Più uno. Perché c'ho Mind Boost. Ah, no, ok, quindi hai un'altra... delle... sì. Lo segno subito. Sì. In realtà non devo segnare niente perché non te l'avevo tolta, quindi non te la devo aggiungere. Oh sì, Big Brain. Sì. Fine del turno di Lieto a sto punto. Tocca all'altro monaco. Alla monaca, la monaca di Monza, che è stata sbranata da un coniglio, che stavolta accasta su di sé la magia. Bene. E colpisce con il tentacolo il coniglio. 9 entra. Non credo di ammazzare il coniglio, ma prende 4 danni e viene avvelenato. Sirio, devi rollare per resistere al veleno per il coniglio. Devi fare 10 sul dado, perché non c'hai... non resisti. Aspetta. Il veleno che gli ha applicato della magia, la magia applicava un veleno aggiuntivo, gli fa 1d10 più 2 danni extra. Aia. Quindi in totale ha subito 8 danni il coniglio. E ha, mi sembra, 12 di vita. Però è ancora vivo ed è avvelenato. Fine del turno del tizio, tocca a Mif. Ciao Alice. Ti salutano. Bellissimo. Okay. Uffa, volevo dire allora. Tutti i terni ossi e poi ha salutato anche lui. Osso è un gentiluomo. Esatto. Ah sì, io ho fatto 10 in arcano. Ah, vuoi sapere cosa per è la magia. Mm-hmm. Hai già visto sta magia? O meglio, hai già visto questa tipologia di magia durante il tuo viaggio nell'estremo sud del mondo? Lo sapevo, era altar, porca troia, ok. Non ti devo dire nient'altro. Non hai mai visto usarla magica in questo modo. Magia che manipola il ciclo, lo usa come arma. Wow. Welcome back to Jujutsu Kaisen. Funny. Mi scrivo, osso, te la spiego. Cioè, ma io l'ho letto giudizio. Allora hai capito. Secondo il giudizio di Mif, ok, cioè purtroppo direi fatto apposta per far morire sto stronzo e far nascere qualcosa, cioè un'esplosione, un qualcosa è da colpire, cioè secondo me può nascere ha visto chiaramente qualcosa a metà, cioè si è appiccicato dentro, ok, sì. E basta. Hai la percezione che il tizio sia più suscettibile ai danni, anche tu. Weekend. Vabbè, a questo punto proviamoci. E... utilizzo la palla. Ci provo. The ball is impatient. La prima volta che la usi, un di 10 per colpire. È un attacco usare la palla. Vai. La Vain Glory. Uno sul dado. Guadagni un punto esperienza. Grazie per aver partecipato. Questo è il quarto uno. Non lo so, però devi spendere un'azione extra per caricarla. Quindi hai speso un'azione extra e un'azione extra e cosa? Ti segno la fatica perché quella è proprio fatica, non puoi usare mana. Come mi faccio a calcolare il mana? Perché ho 6 di base. Il grimorio non è mana, è una roba a parte. Sì, no, non il grimorio, è proprio ho 4 più 2 mana di base, ho fatto dei calcoli ancora l'ultima volta che ne abbiamo parlato. Sì. Devi tirare i tuoi Blood Die da Wizard, che se non sbaglio... Quindi 3 di 4. No, 2 di 4. Hai 2 livelli da Wizard. Giusto, 2 di 4. Oh, grazie al cielo. Quindi è 6 più 7. Quindi è 13. Stavi segnando dall'altra parte, sì. No, quello è il mana massimo. Se me lo cancelli esplode la scheda. Quello attuale. Quindi adesso cosa faccio? Lo fai esc? No, non ho fatto esc. Z. Però, esatto, andiamo indietro. Sì, quello sotto. 13 avevo detto. Sì. Okay. Vuoi usare una spell? Non ho capito. No, era per calcolarlo perché così dopo potevamo andare avanti. Non uso altro, ci ho provato. Tocca ad Adore. Allora. Il tizio di te era un colpo in faccia potente. Sì, infatti. Mi sa che gli rispondo... Ma io prendo danno dalle mie saette. No. Allora, sai cosa? Vaffanculo. Mi giro verso il tizio. Gli dico, capisco. E gli tiro proprio... Devo rollare io per resistere. Sì, devi dirmi se è un di 4 o un di 6, l'unica cosa. Sì, qual è la differenza? Un di 4 fa 2 di 4 danni, un di 6 fa 2 di 6 danni. No, ok, ma in base a cosa lo scelgo? Tu hai 5 dadi vita dadi 4 e un dado vita dadi 6. Ok, allora sì, uso un di 6, vaffanculo, voglio friggere il coglione. Ok, hai speso il D6, ricordatelo, sarà rilevante. Tira 2 D6 per farmi danni, perché ho fallito il test. No, no! Perché sarà rilevante il fatto che ho usato i 2 D6? Perché poi non ce li hai quando dovrai rifare. E posso rirollare il 4? Perché vorresti rirollare il 4? Per vedere se riesco a fare di più di uno. Guarda, così è morto. Etto! Sto calcolando se è morto o se è svenuto. È morto. È ammazzato. Sì. Ammazzato. C'è un assassino. Gli ha fatto 14 danni. Non sarebbe una novità. Cioè l'ha mandato a 14 sotto 0 e moriva a 8. C'è un grumo di umano. L'hai fulminato, l'hai incenerito. Ciao. A questo punto... No, beh dai, non si inceneriscono. Quando un umano si becca un fulmine non viene incenerito. Sì, però c'è una puzza di carne bruciata, esatto, da morire. Cioè, cotto e basta. No, incenerito nel senso di fritto, non nel senso che è rimasta solo cenere. Ah, ok, morto, ok. Però. Cioè, è indubitabilmente morto. Non respira a questo più. Punto... Adone può girarsi e parlare magari? Sì. A questo punto Adone si gira e guardando gli altri suoi gli amici di Statista dice: è rimasto uno. Ok, che ne dici magari di arrenderti? La ragazza, che è l'unica che si è salvata a questo punto. Sì, credo che la mia vita valga di più di un paio di spiccioli. In bocca al lupo, Cleto. Gli dèi non avranno pietà di te. E se la lasciate andare, se ne va. Non ho molto da dire. Lieto. Alle spalle? Una lancia nella schiena. E se lo fai, il tiro è propizio perché non se l'aspetta. Dead Man No... Come che era? There's No Tail. There's No Tail, sì. 10 sarebbe. No, prendi... Ok, sì. Entra, tira i danni. È un D8. Vero? O un D8 più 2, non mi ricordo più. Dovrebbe essere un D8. Tanto fa 3. La colpisci alle spalle. Non la ferisci gravemente. Però... capendo come si sta mettendo la situazione, scappa via. Cioè inizia proprio a correre e non la ribeccate più. E non tornavi! Socco! Stavate tutti girati verso di lei e in qualche modo è sparito anche l'altro. Cioè non avete visto dove sia finito. Ehi, certo punto... la mia lancia, porca di quella puttana! È lì, perché se non allora, è lì la meridiana c'è in mano. La lancia quando tocca qualcosa scoppia, cioè sparisce. Ok, ok, no. Ma è sparito Cleto? No, è sparito il monaco. Ah, ok. I due monaci sono scappati. Era morto. Era KO. Infatti non avete capito cosa sia successo, semplicemente l'avete perso di vista per un secondo e dopo non c'era più. Ok. E... rimanete solo voi, il coniglio, Cleto e un cadavere carbonizzato. La gente sta bisbigliando intorno a voi e Cleto, vi dico Cleto perché la tipa l'ha chiamato così, quindi avete sentito questo nome, ve lo sto ripetendo così vi rimane in testa. Come... vabbè. L'ho subito chiamato. Va bene, mia upper notepad, aggiungo Cleto, punto interrogativo. Dice, la situazione non è delle migliori, sarebbe meglio se ci muovessimo da qui. Vi devo un favore, posso ospitarvi a casa mia? Volentieri. Hai anche qualcuno per rianimare? Aspetta. In tutto questo, Adone piegandosi verso il corpo, c'è un'anima che può ciucciare? Tesi interessante. Sì, c'è qualcosina. E l'hai ucciso tu, quindi... Sarebbe comico se... Da quando ha sto potere non ha beccato una singola, un singolo cristiano che avesse un'anima. Ci sono due persone, ci sono due. Hai aggiunto un coniglietto alla tua collezione. Ah. Il tutto senza che nessuno si accorga di niente, eh? Cioè è una roba che succede tra te e gli spiriti, quindi i presenti Perfetto. Non sanno cosa è successo, oltre a un omicidio. Lo chiedo perché so già che qualcuno di voi lo vorrà chiedere. Volete depredare il cadavere, immagino. Manco a chiederlo. L'ha già fatto, Lieto. L'ha già fatto. Lieto è stato più veloce di Adone. Adone era lì. Lieto, allora, Lieto è stato un rewind per... Ha fatto giù il glimpse, ho visto cosa stava facendo. I suoi vestiti... Non sono in condizioni da poter essere... Cioè, non sono nemmeno stracci, è proprio roba cotta. Si è salvata non tanto la sua pouch, ma il suo contenuto, che sono delle monete. Puoi rollare un D10 manapenny. Questi sono manapenny, non sono staff, per una volta. 5 manapenny. Sì, sono manapenny di Esboson. Quindi non funzionano per le vostre stronzate. Me li segno a parte, guarda. Mif che guarda dietro gli fa: ma sei stupido, cazzo, lo riportiamo indietro questo qui, gli rubi i soldi. Minchia, certo, poi vuole magari. No, che sei scemo, lascialo lì. Sembra il minimo. Quindi Mif si è fatto pre... Ci penserà qualcuno a riportarlo in vita, è meglio se andiamo. Sì, andiamo. C'ho una chiesa qui vicino. Mif guarda Adone. Sara guarda in cab. Ma cosa te? Adone ha detto certo, qualcun altro ci penserà. Non con questo tono. Come avrai intuito, tutti i test per cercare di rianimarlo falliranno. Ahimè. Vabbè, vi fate accompagnare da Anadreos Cleto verso sud e vi si presenta nome e cognome. Anadreos. Anadreos Cleto. Grazie per il salvataggio, quei tizi non sono brava gente. Neanche noi. Beh, ma mi avete salvato, quindi siete meglio di loro. Opinabile per loro. Nadreos... È stata una pura casualità, sono loro che hanno attaccato te. Se tu avessi fatto la stessa cosa avremmo gonfiato di botte te. Ci servivano conoscenze, quindi ne abbiamo approfittato. Avere collegamenti qua in zona può far comodo. Parlando di conoscenze, il mio nome è Adone. E fa tipo... stringe la mano. Sì. Ah, lieto Esperi. Stringe la mano. Quindi per piacere. Stringe la mano. Cleto, Anadreos, tre volte. E arriva Mif. Mif che alza gli occhi fa. Mif. No, dilla tutta, dilla. E gli tiro tipo una gomitata. Mif che guarda Lieto con la morte negli occhi e ti fa: ti prometto brutti sogni stanotte. Si gira verso il tizio, gli fa... Che tra l'altro io mi sono dimenticata il nome. Sara? Lieto il nome. Qual è il nome? No, Cleto Anadreos. Cleto. Ok, fa piacere di conoscerti, Miss Standout. Ah, dal nord vieni, Già. Yeah. Mentre voi siete Scirocco, indica Lieto, Nibel lo indica e dice: non saprei proprio dire. Ah, beh, certo. Dell'impero. Sì. Sono abbastanza fisionomista, la mia famiglia viaggia molto, ha viaggiato molto. A lui di solito non ha questo genere, però oggi ha cambiato vestito. Ho capito, non è così. Quando saremo in chiesa tornerò a quello che sono normalmente. Solitamente ha più seno di questo. Dietro, stai zitto, per favore. Dici che incrocia le braccia, come per dire, possiamo cambiare l'argomento, per favore? Ah, va bene. Come mai dovevi dei soldi a quei tizi? Onestamente è strano, pensavo che mostrare l'anello della corona nera potesse fare un po' di effetto, però evidentemente qua non ha particolare influenza. No, la corona nera non è presente. Ad Esboson ci sono troppi competitors. Troppi rivali. Ne sono accorto. Ben 5 fazioni che si contendono il territorio. La corona preferisce operare dove non ha rivali. Da quello che ne so io, non è che... Quelli che abbiamo appena finito di menare di botte e uccidere, per quanto riguarda Adone, erano anche loro una di queste fazioni o era qualcun altro ancora? I due vestiti strani sono membri del culto Cnidario, è una specie di religione New Age strana che si è formata di recente sull'isola. E in cosa credo? Ci volevano nuove religioni, effettivamente. Credono in una divinità del mare non meglio specificata e hanno dei tratti da satanisti, suppongo. Sì, abbiamo visto il Tar. Anche il se il Tar l'ha usato lui. Infatti. Ah, l'ha usato lui. Scusatemi, sono un po' fuori fase. Ma rewind, mi prepara rewind. Ma non hanno... Questi non pregano Liviagon, quindi... No. Non so nemmeno se ha un nome il loro dio. È tipo... Grande mostro marino. L'hanno fondata... Di questo passo nasce un nuovo grande mostro marino. Che due coglioni. Spero di no. L'hanno fondata dei... Scapestrati per di giorno che... non avevano niente di meglio da fare. Criminali che vengono da posti lontani. E le altre fazioni? La nostra isola è da diversi secoli sotto il controllo del regno di Scirocco, quindi c'è una fazione che tiene l'ordine nelle strade, che sono i monarchici. Ragazzi, io ho i vessilli. I monarchici. Sì. Wow. Praticamente sono i poliziotti, le forze dell'ordine legalmente istituite dell'isola. E la maggior parte della popolazione sta dalla loro parte tacitamente. È il governo e quindi nessuno si ribella. C'è una fazione della Legio Orbi che, venendo da Scirocco, conoscerete almeno due di voi. Okay. Di stanza qua. Poi la nostra isola ha una forte componente irredentista e ci sono gli irredentisti che sono quelli che vorrebbero che l'isola diventasse autonoma e sono fondamentalmente dei terroristi che vogliono cacciare tutti gli stranieri. Come vi ho detto c'è il culto Cnidario, messillo anche il culto Cnidario. E di recente è arrivato sull'isola anche un distaccamento dell'impero. Ufficialmente hanno un'ambasciata alla città, e però in realtà fanno i loro traffici militari e le loro cose private. E infine l'ultima fazione è il culto dei Tieni tempo, non so come tradurlo, Timekeepers. È un'altra religione antica. Hanno ricostruito un monastero su per le montagne e non si sa bene cosa facciano. Cercano di escludersi dal mondo, probabilmente sono degli eremiti. Mi giro verso Lieto alzando un sopracciglio. Io Siri non lo so fare, ma immaginate che... Io lo so fare da un lato solo. Lieto si gira, ma sapresti indicare la direzione del tempio, magari? di questi ultimi? Nessuno lo sa, cioè le montagne non sono esattamente colossali, l'intera isola è qualche chilometro, 40 chilometri di larghezza e 20 chilometri. Aspettate. Infatti dicevo, ma ce l'abbiamo la mappa? Dimenticavo. Eccoci qua. L'isola è 40 chilometri di larghezza, ogni quadrato è un chilometro. E 25-26 chilometri di larghezza, quindi non sono esattamente le montagne centrali della Solveria, cioè è da qualche parte lì. 41 chilometri. Però la strada esatta per arrivare al tempio non la conosce nessuno, o meglio, nessuno che io conosca. Ok. No. Grazie, I guess. Noi abbiamo la mappa, giusto? Proprio fisicamente. Sì. Poi Alice, puntarti. Ti faccio una domanda: perché c'è un mostriciattolo viola? Dove? È in alto, a sinistra. La vostra parte. Ok. Ok, grazie. Vedevo la città ed ero tipo lì, ma è uno spoiler o? No, siamo noi. Di un colore che si veda. Rosso. E lì in cima c'è la città di Allos, che è da dove siete attraccati, e in basso a destra c'è la città di Esboson. Per ora voi non sapete nient'altro dell'isola, quindi non ho segnato altri. Sì. E sulla mappa... No, tutto bene. Ok, c'è un punto sulla mappa che è a prova di deficiente. Questa è una centrale di mana. Sto per dire. Una zizzona. Okay. Potresti puntarci sulla mappa dei punti di interesse che potrebbero servire. Allora, restando sulle cose che vi ho detto, e segna qui, in alto, cioè al centro in alto. Purtroppo la puntina viene piccola perché non c'ho ancora la versione figa, ma vi metto... Puoi cambiare la dimensione, cioè tipo nella seconda schermata della pin puoi decidere sul personalizzo. Puoi decidere la dimensione. Però non posso scegliere i colori, che invece era quelli che mi interessavano. No, colori no, purtroppo no. E però c'hai 5 taglie di pin. Devi renderla visibile poi la pin, perché non di default è nascosta. Allora, vedete adesso? No, vediamo solo Aizbutan. Sì, esatto, okay. Vediamo solo. Ok, ora dovreste vedere quella... Ora si vede. Yes. Ok. Quello è il golfo Azazol, ed è dove si nascondono quelli del culto Cnidario, cioè nessuno ci va. Qua in basso c'è la centrale di mana, chiaramente. Poi in realtà non è un'isola così interessante, non ci sono tantissime cose da fare, da vedere. Tutto intorno alla città di Allos ci sono dei campi coltivati. L'80% della popolazione vive nei villaggi e nelle campagne, mentre dall'altro lato vivono quasi tutti in città e ci sono pochi campi intorno. Come si chiama il fiume che attraversa il fiume? Sì, che lo so in italiano, però è tipo tagliamento in greco. Ora te lo traduco. Ci sta un secondo. Che vorrei. Che in greco antico, ovviamente. Perché... E come mai ti interessa il fiume? Ti chiede lui. Sì. Dalla mappa sembra una parte importante dell'isola. È l'unico fiume della zona, quindi anche l'unica fonte di acqua fresca, I guess, se è un'isola. Sì, principalmente si usa la magia per creare l'acqua per il campo. Sì, ma io ho interessato l'acqua. Ah. Ah, cazzo, c'era lo stesso fiume, cioè c'era un nome simile a Dapeira, è il Tomi. Ok. E noi abbiamo ancora con noi la nostra stella marina, vero? Voi avete ancora la stella marina. La Dmigiana. Molto bene, molto bene. E... Ok, niente. La centrale di mana abbiamo detto che usava l'acqua del mare. avevamo fatto un discorso legato a Zalla. Teorizzato. Era quella di Porto Leone, mi sa, sì, che era questa. Era vicino al mare, non era Esbosen. Questa è necessariamente vicina al mare, però. È 2 chilometri al mare, quindi sì, abbastanza vicina. Per andare ad Esbosen, che strada ci consigli? Meglio passare per la centrale o... Vi conviene a nord. Passare per la centrale perché non c'è una strada a nord. Dovreste passare per forza dalle zone dei cultisti che si dice siano maledette, da prima che arrivassero i cultisti. Una maledizione sarebbe stata lanciata, secondo la leggenda, dagli antichi Ronum quando hanno conquistato quest'isola, facendo inabissare la vecchia capitale. E dov'era la vecchia capitale? Nel golfo davanti a noi? Sì, non era un golfo una volta. Ok. Atlantide type shit. E qualcuno ha guardato... Come? Se tagliassimo da qua, la catena è troppo alta qua per essere attraversata? Non è la questione di altezza, è il fatto che non ci sono strade molto ripida, quindi è difficoltoso passarci. Il bosco è abbastanza pericoloso, quindi ha più senso seguire il sentiero. Ci sono dei mostri. E l'altro problema che abbiamo è che la parte sud dell'isola, come vedete dalla mappa, praticamente non è abitata da nessuno, perché c'è il mare aperto lì e quindi gli attacchi di mostri marini sono abbastanza frequenti. La cosa più a sud dovrebbe essere la centrale di mano. Chiaro. Sì, anche al porto ci hanno consigliato di attraversare da sud e farla lunga. Sì, sì. Va bene. La strada più o meno è questa. C'è un sentiero che potete seguire, almeno nella parte con le piantagioni è ben segnato e non potete perdervi. C'è solo un tratto che attraversa il bosco e poi dalla centrale in poi c'è una strada lastricata. Ok. Ci puoi fornire dei cavalli, visto che sei in debito con noi? Certo. Non sarebbe male. Regalo, ma... No, assolutamente. Ma solo per il viaggio. Come fai ad usare il Tara? È una vecchia tradizione di famiglia. Ci chiamiamo Nadreos perché il nostro antenato Danny Nadreos fece un viaggio in Adiria. Infatti lo chiamavano Danny il Catabate. E una volta tornato... sapeva usare la magia Nadira. Incredibile che gliel'abbiano insegnata. Sono molto chiusi. Gli hanno anche dato un braccio. Il mio antenato ovviamente risaliva la nostra famiglia quasi 200 anni fa. E all'epoca non c'erano metodi facili per rigenerare gli arti. Quindi lui che lavorava in un ambito di manovalanza aveva bisogno di entrambe le braccia per sopravvivere, ha fatto questo pellegrinaggio. In 200 anni le cose sono cambiate molto, effettivamente. Decisamente. Master, posso capire se sta tipo mentendo o nascondendo qualche parte di storia? Ho pensato se castare Future Glimpse per... normale più. Ti dico che hai fatto 8. No, mentira, sì. Mentira, 6, scusa. Puoi investigare questo? No, è mentira. Ok. Il tizio non sta mentendo. Non sta dicendo tutto perché non gliel'avete chiesto, non perché... Cioè, sì. Sta evitando di dire delle cose. Ok. Appunto si chiede, dice: io sono uno studioso di magia, è curiosa la magia che stai utilizzando. Non utilizza mana penny? Non utilizza nient'altro che la forza vitale, è simile alla necromanzia. Capisco. E appunto La insegna la tua famiglia da generazioni? Probabilmente, essendo discendenti di qualcuno che la sapeva usare, abbiamo un dono innato, però potremmo insegnare i fondamenti, non lo facciamo agli estranei. Certo, certo. Però lo fate a qualcun altro? In che senso? Hai detto che non lo fai agli estranei, non per forza. Ai membri poi... della famiglia. Grazie, la mia era pura curiosità scientifica, nulla di più. Direi che non divulgassi più di tanto i nostri segreti. Conduciamo una vita tranquilla, siamo una famiglia di cocchieri oggi, quindi non abbiamo interesse a essere oggetto di studi. Capisco, non preoccuparti, era pura curiosità personale. Anzi, grazie per i cavalli, se riesci, insomma, ad aiutarci. Se c'è qualcosa a rimediare. Ma in tutto questo non gli abbiamo ancora chiesto perché stava rischiando di essere zoppato. E perché doveva dire... Ma non gli abbiamo chiesto subito all'inizio che sì, gli doveva dire... Sì, che doveva rispondere questo. Praticamente avevo... io nella famiglia sono quello... adibito alle vendite, perché non sono molto bravo con i cavalli. Quindi ho concluso un affare con loro. Loro sostenevano che il cavallo che gli ho dato era un cavallo di bassa qualità e volevano che li rimborsassi. Ma il cavallo non era di bassa qualità, era l'uso che ne hanno fatto che è stato improprio. Hanno mangiato il cavallo? No, lo hanno portato in una zona dove non poteva muoversi agilmente e si è rotto una gamba. Capisco. Non è un cavalluccio marino, se lo porti negli acquitrini. Già. Comprensibile. Pensi che ritorneranno? Sì, ma non hanno il coraggio di attaccare la villa di famiglia. Dovrò solo stare attento quando vado in giro. Guardate, io ho una domanda, io Sirio, in tutto questo, ma Aku... Aku vi aspetta. Non dovevo... Ha detto che per una settimana, per una settimana o due può rimanere qua e trovare un lavoro nel frattempo. Ah, ok, ok, ok, perfetto. Che aveva un conoscente che poteva, con cui poteva pescare. Ok. Anche perché senza la sua mana unit non torna a casa. Esatto. No. In realtà ci sarebbero... Dopo ammazza tutti. Non vi ho skippato due fazioni, cioè tre. Una è la sua famiglia. Le altre due sono i pescatori, che sono quelli che credono in Zagon, che venerano Zagon tutt'oggi, e l'altra è la fazione della centrale. Però non sono rilevanti, nel senso che la fazione no. dei pescatori c'è in tutti i cazzo di posti del mondo, solo che non è una fazione, è just a thing. Chi è che credeva Irumaru? L'aveva detto? Sì. Non Irumaru sì. ha detto... Non sapeva il nome. Non sapeva no, sì. il nome. Sì. Lo ricordo io... Orumiru? Era letteralmente il nome al contrario, dovrebbe essere. Che occhio. No, il nome al contrario era un'altra roba, però. Non era il... Non sapeva il nome, comunque, la stella. Cleto, hai mai incontrato dei pesci o animali che possono usare la magia? Quando dici pesci è chill, quando dici animali sgrana gli occhi e dice no. Ok. Menti. Se dovessero esistere, se dovessero, io intanto gli parlo. Se vuole, volete fare. Io voglio fare un roll. Sta palesemente mentendo. Se fatti, dovessero beh. Esistere, pensi che possano avere a che fare con le piaciuto? Hai mai visto un animale pregare per un dio? No. Is he lying? No. Ok. Quando, cioè, prima aveva un tono di voce molto acuto quando ha detto una balla palese. Quando gli chiedi se l'hai mai visto pregare per un dio o un animale, è tipo, no. Secondo te gli animali possono avere fede? Divinità? Potrebbero. Gli animali sono molto intelligenti sicuramente, però... Ok. I cavalli sono... Abbastanza... abbastanza da usare la magia comunque, tecnicamente. Sì, sì, sì, sì. E quindi quante volte hai visto i pesci pregare? I pesci non li ho mai visti pregare. Non ho mai visto. I cavalli, marine invece? Non neanche. Neanche i cavalli? No, che no. Animali hai visto pregare o usare la magia? No, non ho mai visto un animale pregare, ok? Gli animali che usano la magia sono una cosa relativamente comune nel mondo. E vivendo ad Esboson capita che ci siano dei mostri marini o creature del genere. Sì. Siamo stati attaccati intanto da delle creature marine arrivando qua, però da quello che ci ha detto il nostro conoscente non dovrebbero essere in queste acque, dovrebbero essere più a sud. Non navigo molto per mare, quindi non so nulla di questa storia, se i giornali non hanno parlato. Erano delle sorte di... sembravano donne, però beta pesce. Mai sentite. E quanti soldi pagheresti per vedere un pesce che prega? Non credo che pagherei dei soldi per vedere un pesce che prega. E una stella marina invece? Nemmeno. Ragazzi. Sembrava uno spettacolo da circo non di bassa qualità. Io ho fatto le domande che devo fare, poi fate hobbies. E cosa ne penseresti se dovessi vedere la stella marina che prega un dio? Basta! Se dovessi vedere una stella marina che prega un dio, saresti disposto a pagare dei soldi per vederla una seconda volta? No, lì è interessato, tipo, cosa ne pensi? Dal punto di vista filosofico. È una questione... Doneresti la causa? Non penso, no. A quel punto no, però sì, convengo con voi che sia una situazione singolare. Scusate, ma cos'è che gli avevo chiesto che l'ha fatto reagire in maniera un po' strana? Animali che usano la magia. Sì, gli ho chiesto io se aveva visto degli animali che usano la magia. Mif tira fuori una perla di quelle che ha accumulato da Irumaru e la porge a Cleto. Cleto. Sì, ok, ce lo faccio. Pensalo così, è lieto ma più figo. Wow, shots fired. Wow, veramente. No. Ma non è vero, tra l'altro, si chiama Anacleto. Letteralmente, vabbè. Già, gli rapporto di Anacleto e fa, hai mai visto una cosa del genere? È magica questa. Non la tocca, la guarda. Mi dice nulla. Ci sei full shipping? Non sembra. Okay. Comunque era lì vegano al contrario, la cosa che avevi scritto la volta scorsa. Sì, era lì vegano al contrario. Ero io stupido. Sarei curiosa di vedere come il Taro interagisce con una cosa del genere, se sei disposto. Preferirei di no. La nostra regola di usarlo il meno possibile questo genere di abilità, se non in caso di estrema necessità. Peccato. Non mi fa. Ci ho provato. La rivette dentro. Qualcuno di noi voleva mangiarsi la pallina, però una volta arrivati... Io. Sarà ferma. Esatto. C'è tempo, ce n'è. Guarda, non ho un fidget spinner, Eddie, altrimenti lo tirerei fuori. Guarda. Io dovrei andare in chiesa a mettermi a posto le dita della mano. Noi stavamo andando in chiesa, tecnicamente. Stavamo andando in chiesa, tecnicamente, siete... sì. Era la nostra... Siete separati, ci ritornerete dopo, perché ormai siete andati verso casa sua per togliervi sì. Dal... Ah. Per evitare le guardie. E... Quando ci sta portando la figlia... Scusami, vai. No. Ok. Quando pensi che sia sicuro ad uscire di nuovo? Se interviene la legge Orbi, in genere resuscitano il tizio, prendono la sua dichiarazione e poi se ne vanno dopo un'oretta. Cosa che non succederà a questo giro? E... questione vabbè, di poi realizzo che ho fatto un po' una cagata, però... No, guarda, no, non l'hai fatta una cagata. Allora, vabbè, però avevamo detto che tipo il restare la gente aveva al meglio tipo il 60% infatti, di probabilità. Non è detto che avvenga, sì. Però rimane il fatto che quindi vuol dire che ho ucciso una persona a prescindere. Può essere bad luck. Cioè, nel senso, se questi hanno 3 necromanti e falliscono tutti e 3, una volta su 8 succede, ragazzi, cioè... Oh, oh, pace. Wow. Pace. Vabbè, se la sono cercata comunque, quindi... Doveva finire bene se non mi tiravo la testata. Sì, sì, e lui ci sta portando alla villa di famiglia? Sì, siete abbastanza vicini. Intanto proseguiamo. Vabbè, purtroppo per loro questa exp in armi, attacchi senza armi non si guadagnano da sole. Quindi. A proposito, vi devo dare l'esperienza per il combat. Avete preso sì, anche perché poi Ganesh... Io non ho capito, segno nella barra sotto i punti di... Cioè, prendo un punto ogni volta che casto una roba, no? Sì, in quello di sopra. Ah, quello di sopra lo metto? Sì. Perché quello di sotto... ricordami una cosa. L'XP hai senza armi e non è per ogni attacco che effettuo, è una volta combattimento. Una volta per turno. Ah, una volta per turno, ok. Allora solo uno, sì, perché poi l'altra volta fallì. Segno io l'esperienza, se non l'avete segnata. Così lo facciamo una volta sola. Io ho fatto solo quella dell'arma io. Quella senza armi l'ho già messa io. Quella del livello base la faccio io. Ok, l'ho messa tutti. E vi do anche 2 punti statistica a testa da distribuire come volete. Yay. Di nuovo segno io questo e poi lo fate. I punti statistica li distribuite durante un riposo. Non adesso. Ho una cosa da dire, Bianic. Io ho deciso di segnare i miei coniglietti. Sì. Non capisco perché ho la barra del dollaro di fianco. Perché è formattato come dollaro. Okay. Poi lo faccio. Io ho fast learner, quindi mi sa che guadagno un XP in più su senza armi e un punto statistica in più? Sì, esattamente. Segnali, cioè, ti segno il punto in più. E io faccio 19 in XP. Sì, già messo. Ho bisogno che ognuno di voi mi faccia un roll a scelta. Tra quello che volete, natura, arcano e... questo è stupido, però... e cavalcare. Io arcano. Vabbè, anch'io. Prego, fate pure il conto. Uso Future Glimpse, posso? Devono rollare tutti? Sì, sì, sì, per forza, questo mi serve. Ho detto natura, arcano o cavalcare. Cavalcare credo non. Io faccio natura io. Uff, anzi, fatto 16 totali in arcano. Faccio rewind invece che rewind, cioè 2 volte al giorno. Io ti dico fallo, però no, magari uso Future Glimpse a sto punto. Come vuoi, quanto avevi fatto? E 1 più 7 fa 8. Vuoi tenerti l'8? Come vuoi? No, dai, cerchiamo di dai, Future Glimpse. Lo posso ritirare? Sì, spendi il mana. Cioè prendi 2 di fatica. Sì. Vai. Ok, 4 più 7 ho fatto 11. Ok, avete fatto tutti almeno... No, ok, Nivel ha fatto meno di 10. Sì, ho fatto 8. Chi ha fatto più di 15? Io. Ok. Davvero? Ti segno un'esperienza a teurgia, Adone. Okay. E devo cambiare musica, anche se questa era figa. Però... non sta partendo, vero? No, infatti non la si... No, c'è. È molto basso al momento. So che parte tra un secondo, altri... Sì, sì. È molto bassa, però c'è, cioè, se tipo c'è... A bomba dopo. Infatti. Era quella giusta. Chi di voi, Mif, percepisci una forza animosa? Non sai descrivere cosa sia, ma viene dalla casa, dalla villa di Cleto. Cleto è nel Cile, sta camminando tranquillo. Tu invece percepisci proprio la sensazione di un pericolo imminente di natura magica. Chi ha fatto più di 10? Da quella parte. Sì, chi ha fatto più di 10 avete un bad feeling e siete entrambi magically affini. Sì. Quindi anche voi sentite che c'è una straordinaria forza magica. Nibel nel chill. E anche Cleta tranquilla. E... ok. Visto, vedete che rallenta un pochino il passo. Io non so chi sia l'ultimo della fila. Scegliete voi. Credo che Adone starebbe abbastanza davanti. Cleto è il primo. Anche Nibel, Nibel probabilmente dopo Cleto. E quindi Lieto mi farà rallenta fino a raggiungere Lieto e fa... Quella casa non è sicura. Sì, anche a me i vibe non sono... No, non è un vibe. Tipo, mi ti guardano, deadpan, non è un vibe. Ok. È stato gentile fino adesso, però non mi sembra... Cioè, sono necromanti, maybe è quello? Pseudo necromanti. Andiamo a fare così. Mif, di nuovo, cammina avanti. Sì. Adone parlerebbe però prima che ti avvicini e dice Cleto, dicevi che la tua famiglia siete dei cocchieri? Sì, alleviamo cavalli. Capisco. E tutti nella tua famiglia hanno la stessa tua abilità magica, giusto? Chi più, chi meno sviluppata, però i fondamenti sì. Capisco. E magari adesso, se facciamo che appunto si è avvicinata a Mif. No. Mif, che vedete, Sorniona con un sorriso fa: Cleto, una domanda, ma avete qualche. Avete fatto qualche cosa alla casa? Tipo? Una ristrutturazione magica, qualcosa del genere? Non credo. La stessa cosa la sento su di lui? No. Anzi, man mano che vi state avvicinando alla casa, perché siete. Loro hanno un grande una grande area dove fanno camminare i cavalli, dove allevano i cavalli, brucano eccetera, quindi siete all'interno di quest'area, siete già nella sua proprietà e man mano che vi avvicinate è sempre più focused, cioè prima era la villa e ora sembra un'area della villa. Vale. Giannis, io avrei ancora Future Glimpse, posso utilizzare una carica? Perché no, tipo non ho usato un'altra, posso usare stesso roll. No, puoi... no, per vedere tipo andare avanti e vedere succederà? Effettivamente qual è la zona, sì, vedere cosa succederà. La tua visione del futuro è voi che entrate nella casa, una figura nera e poi finisce la visione. Non riesci a capire se è perché non riesci a vedere più avanti di così o se c'è qualcosa che ti impedisce di vedere cosa succede. La figura domanda, nera figura... è estremamente imponente. Ma nera nel senso che è perché è tipo non riesco a vederla bene, non riesco a metterla a fuoco, o è come se tipo magicamente la vedessi nera? Di nuovo è Vanta Black, cioè è di un nero così penetrante che non ha né riflessi né altro. Non riesco a capire se sia un artefatto di Future Glimpse, per così dire, oppure un... l'effettiva struttura fisica della figura. Ok. Per il momento non dico niente, vado avanti. Lui è tranquillissimo. Dico... Sì, sì, infatti. Cleto, vivi da solo in quella villa? Ci sono tuoi familiari? No. Abbiamo una villa molto grande, ci sono diversi nuclei familiari. Ho almeno 4 cugine con i bimbi. Adesso che ore sono più o meno? Siete all'ora di pranzo, mezzogiorno, luna. Ok. Okay. In realtà mi scoccerebbe un po' dal fastidio. Sei sicuro che... No, certo, quello sì, però... Probabilmente per noi sarebbe meglio, se possibile, affittare i cavalli e andare via. Cioè, non... Voi cosa pensate... Abbiamo bisogno di rimanere qua per qualche giorno? No, credo che, insomma, anche a me dispiacerebbe. Accettiamo i cavalli, ovviamente, volentieri, però dopo di ciò credo siamo che... Siamo abbastanza di fetta? Sì, nonostante tutto, alla fine... Lungo la via troverete sicuramente delle locande, dei luoghi dove passare la notte, se non arriverete ad Esboson in giornata, anche se sono molto allenati, i cavalli non volano. Certo. Devo solo andare alla stalla e prendere i vostri animali. Volete seguirmi o... No, io non ho problemi. Voi guardo gli altri, dico... Se vuoi ti veniamo io e Nibel. Voi magari aspettate. Sì, Mif tipo prende liete fassi, noi vi aspettiamo qua. Ok. La sensazione è interamente pinpointed nella stalla. Ok, okay. Non me ne accorgo. Lo dovevi dire prima. Possiamo... Domanda, cambiare, posso puoi usare... Cambiare, se vuoi cambiare poi. Cioè, te ne sei accorta dopo aver detto quella cosa lì, però... Non cambiare, non cambiare, è molto più divertente così. Sì, dai, sì, dai. Perché sei passato, Ica? A me fa poco io... indietro. Io mi avvicino alla donna e dico... Secondo me... Mif e Lieto vogliono rimanere da soli. Adore, vedi qua. Signor Vassetta dice... What? No? Sono sbagliato. She's mine! Vedi lo che... so, beh... Non sono più abituato a queste robe da... Sono dice... troppo vecchio per... Ok. No, dice... Però effettivamente... Mi fa un gusto per i ragazzi più giovani, quindi... Che cazzo ne sai tu? Lo spirito di Mif dietro, cosa ne sai? Bello. Oh. Sì, e comunque visto che già... Adone, visto che già lì dice comunque attento alla stalla. Dice a bassa voce abbastanza che lo sente solo lui. Ok, vi state separando. Ma per motivi di trama. Cosa che non puoi cavalli. Non riusciamo a non separarci in una sessione, è impossibile. Non so, cioè, non vi dico niente, però siete voi a scegliere. Ho una domanda. Vabbè, perché in normali circostanze ci separa. Cioè. Vai, ti il solito direzione strano nella vita. No, è un'idea di merda, scusami, no. Lo stesso. Fa lo stesso, no? Perché c'è scritto... Lanci la polvere per addormentarci sulla stalla, Ruby Cavalli. Esatto. Ruby Cavalli avrebbero affittato... Vabbè. Esatto. No, tra l'altro, adesso che siamo avanti, posso usare un'altra carica di Future Glimpse per capire se il motivo per cui mi si stacca è perché c'è qualcosa che magicamente interferisce? I'll allow that. La risposta è questa. Circa. Circa. È come... Oh, c'ho due lauree! È come un vinile danneggiato che è arrivato a un certo punto e entra in loop. Non sei così familiare con Future Glimpse da saper dire i dettagli di sta roba. Ma stavo proprio per dire, non conosco abbastanza Future Glimpse come magia e questa magia per saper definirlo, però... Non possiamo fare tanto. Io ho qualcosa che vi posso preparare? Assolutamente no. Però metto mano alla bacchetta di Rubino. Ok. Leto fa strada. Sorridente, cioè tranquillo. E c'è la... Io continuo a non sentire niente. No. Vi racconta la storia di casa sua, che l'hanno fatta i suoi, l'hanno... costruita da zero, anche se non erano propriamente carpentieri, la stalla è una roba di cui andiamo molto fieri. Fa per aprire la stalla e appena apre le porte, sono due porte di legno molto grandi, cioè ci devono passare i cavalli, dietro le porte c'è una creatura nera gigantesca, cioè colossale, più di 3 metri d'altezza, e Cleto fa un passo indietro spaventatissimo. Vi chiedo cosa volete fare e poi vi dico cosa succede. se me ne accorgo, io vorrei prendere Creto da, tipo, dalla maglietta dietro e tirarlo indietro. Ok. E... Allora, visto che Creto ha reagito con sorpresa. Domanda. È sorpresa, non è paura. No, esatto. Ok, allora Done tira fuori di scatto la bacchetta, ma non cazza nulla. Perché io dopo ho ascoltato che lui è sorpreso e c'è la creatura di 3 metri dentro in una stalla, non mi sembra normale come cosa, quindi lo tiene lontano. Prendo Creto, lo... sì. La creatura sbatte una zampa per terra e uscendo fuori dal come cazzo si chiama, dalla stalla, vedete che è nera perché è al buio. Sembra un cavallo gigantesco, enorme, completamente coperto di metallo, di placche di metallo di varie forme, in modo da riempire completamente la cosa. Quando sbatte per terra il terreno si spacca, cioè proprio inizia a craccare sotto il suo peso enorme, e si gira verso Adone. La sua testa è così, è molto grande, e sbuffa nella tua direzione. Nibel sente quello che dicono gli animali. Se vuoi castare Every Talk, te lo faccio fare. Stavo per dirti, casto Every Talk. Perfetto. Prendi un altro di fatica. E quindi entrambi sentite questa gigantesca creatura ruggire e dire: vattene dal mio bambino, porti sfortuna. Adone, vedi che sospira e dice: ce l'hai con me? Creto si avvicina, abbraccia la gigantesca creatura e dice: Glauco, che ci fai fuori? Lo sai che devi stare dentro di giorno. L'enorme cavallo lo accarezza con la testa, gli dà un buffetto, e poi si rigira verso Adone e sbuffa di nuovo. Non gli piace. Adone continua a usare Vitor, che dice: il tuo abbiamo salvato la vita al tuo bambino. Se preferisci posso allontanarmi, ma ci deve prestare dei cavalli. Non devi tornare più qui. Altrimenti... Non lo sente. Tira su il collo, si mette sulle gambe inferiori, quindi si tira completamente su, e lì è 3 volte più alto di Nibel, cioè 3 Nibel uno sopra l'altro. E fa... cioè, se non sentiste quello che dice, sarebbe un nitrito. Mif e Lieto sentono il nitrito da lontano. Un okay. Fortissimo. Vedono molto basso. No, perché sono girati. Cioè, dovreste fare il giro per vederlo. E quello che sta dicendo con quel nitrito è: devo dirti cosa ti farò? Adone sospira e fa un piccolo sorriso. Poi si gira verso Creto e dice: sembra che non piaccio molto a Glauco. Forse è meglio se aspetto fuori. Il cavallo ritorna alla sua posizione normale e Creto dice: non aveva mai fatto così con nessuno. Non ti preoccupare, Creto, è questione di poco. Il cavallo sbuffa man mano che vai via e ti continua a fissare. Tanto... intanto mi giro e raggiungo Mif. È durata 30 secondi sta cosa, quindi avete 30 secondi per parlare fra di voi e poi arriva, soggiunge... Quando sento il nitrito semplicemente guardo Mif, alzo tipo un sopracciglio. Io... andiamo? Rimango lì con Glauco. Fa brutto adesso, che li abbiamo mandati lì da soli. Aspettiamo, dai, insomma. Se sento un'urla di Adone non mi preoccupo, se sento quelle di Nibel, sì. Arriva Adone che ti dà il cuore di Dio su di te. Vediamo Adone arrivare? Vedete Adone mogio, lo vedete triste. Mif che fa? Ha rifiutato perfino da leggermente? Che succede? Stai zitta, Troia. scusate, non è vero, non direbbe Troia. Scusate. No. Forse lo direbbe a sto punto. Sai cosa? Sì, lo direbbe, ma culo direbbe. Visto Faust, sono indignatissimo e si gira verso Riet come per dire, che cazzo? Vedete che vado. È una bella battuta, dai. Fuori dal cancello. Hai lasciato Nibel da solo, quindi? Andate voi da Nibel. Ah, mi fuma da Nibel. Lieto? Vengo anch'io, I guess, sì, no? Sono curioso a sto punto, voglio vedere. Bravo, il cavallo, la giumenta qui non piace. Io ce l'ho ancora dietro. No, è morto avvelenato. Rape. Non te l'ho detto prima, guardo... cioè, ci ho pensato, però... guardo Glauco e dico... ti do fastidio anch'io. Riesci a capire quello che dice. E lui ti guarda dritto negli occhi. È semplice, cioè. Sì. In realtà... a differenza degli animali normali, questo sembra abbastanza eloquente, cioè scandisce abbastanza i concetti. Tu mi capisci? Devo proteggere la mia famiglia. Non faremo del male alla tua famiglia. Gli alzo la mano tipo per cercare approvazione. Tira su la testa e dice: non sto dicendo che vogliate farlo, sto dicendo che quelli come lui portano sfortuna. Rimango un po' in silenzio, non so come controbattere la cosa. Dopo due secondi sbucano Miff e Lieto e ti tolgono dall'imbarazzo. Tutto bene? Sì, c'è un cavallo tipo... di 3 metri al garrese. Sì, sì. Infatti lei fa tutto bene. Wow. Alzo, cioè, si ferma, la mano agli altri. Alzo la mano agli altri, dico tranquilli, sì. Docile. Lui guarda con voi almeno e sbatte la zampa per terra e dice: ce n'è un altro? È difficile da spiegare. Abbiamo una direzione molto precisa su quello che stiamo cercando di fare. Non è... faccio io, ok? Prendo io i cavalli che ci servono, prendiamo i cavalli... A Miff non ha fatto nulla. Sì, è vero. No. Si avvicina a Nibel. No, perché chiaramente non lo capisco, dico... no, Nibel. Cioè, io il Lieto è tipo... Vai via. Va bene, mi avvolta. Ti dico dopo. Va bene. Mi avvicino a Miff e dico... dice che gli avatar portano sfortuna. Non vuole... dai! Ma dai, sì, lo so. Me ne sono accorto. Okay. Sì, ha ragione. Che non gli ho potuto dire niente. Cioè... mi si trattiene da ridere e fa. Fatto anche cosa puoi. I cavalli saranno come questa creatura molto peculiare oppure più dopo che se ne va normali. Dopo che se ne va Lieto, la situazione si calma. Ed è parita questa musica, quindi non si è calmata manco per il cazzo. La... ora si è calmata. Arriva Maria. Esatto. 1-1 Glauco. Cleto aggiunge: no, in realtà Glauco è un'eredità della mia famiglia. E in genere lo abbraccia, lo carezza. Non esce... a caso, esce solo la notte quando non ci sono persone che lo possano vedere, perché è strano e quindi la gente non capisce. Ma noi abbiamo la valle normale. Tranquillo. Abbiamo visto molte altre cose strane e posso capire Glauco, quindi so quali sono i problemi e li gestiamo tra di noi. È quella la fonte di energia che sentiamo. C'è di magia che sentiva Miff, cioè proprio. E Cleto aggiunge: io non capisco quello che dice, cioè dopo tanti anni riesco a condividere le emozioni, a sentirlo, però non riesco a comprendere. Che cosa ti ha detto? È un'abilità che ho riscoperto di avere di recente. non gli stanno simpatici gli altri due del nostro gruppo, niente in particolare. Semplicemente io ho detto di allontanarsi per evitare che diano da fastidio al cavallo. Leto parla con Glauco e gli dice: perché non ti stanno simpatici? Glauco lo carezza e non ha gli occhi, cioè gli occhi sono coperti dal metallo, è interamente coperto di metallo, quindi non si vede nulla sotto, né il pelo, né la pelle, né gli zoccoli. E mentre sta carezzando Cleto, parla in modo che solo Nibel riesca a sentire, e dice: lui non deve sapere cosa sono gli altri. Non gli piacciono le persone spocchiose. Non gli piacciono i croci. Sono nobili entrambi, non gli piacciono la gente che si comporta in quel modo. Ah, ok. E vado a prendere... Gli piacciono le persone modeste. Persone modeste, quindi suppongo che sia il motivo per il quale tu e la tua famiglia gli state simpatici. Credo fosse per il legame che aveva con il mio antenato, ma sì, forse anche quello. Tecnicamente la mia è una famiglia nobile. Sì, però se bisogna essere nobili, nobili dentro e non dimostrarlo con comportamenti sospiro tipo... Scusate, mi sono persa gli ultimi due minuti. Ci siamo mossi? Cos'è successo? Te lo riassumo così. Cleto chiede cosa cazzo sta dicendo il cavallo dice: non gli dire quello che sto dicendo. Viene. Sì. Io ho detto, no, gli stanno antipatici perché sono tipo spocchiosi e Miff che tira un attimo tipo la manica di Nibel per farlo chinare, non è fa. Mi abbasso. Questa era l'incredibile energia magica che sentivo, però non è una bella sensazione. Cioè, non sembra... proviene dal campo. Non sembra abbia intenzione di farci del male se allontaniamo di da qua Lieto e Adone, quindi finché siamo collaborativi non dovrebbero esserci problemi. Ma poi guardo il cavallo, come si chiama? Glauco. Cleto è entrato dentro. Glauco. E quindi sta preparando i cavalli. Cioè è metallo tipo piastre, come se avesse una corazza, però gli lo copre interamente. Sì, cioè è tipo il... come si chiama? La gorgone, il mostro gorgone di D&D, che è il toro, quello di metallo. Però è tipo... cioè ferro, sì. Acciaio come colore. Ok. Però cioè, si vede quindi che non è mi roba, ricorda... è una roba sopra la pelle. Cioè, come se avesse proprio delle corazze. Certo, certo. Non è... Non fa l'outline dei muscoli. È molto più... coprente. Ma ok, è corazzato, corazzato. Ok, vabbè, stavo dicendo, non mi ricorda in qualche modo la malattia, la peste del bronzo. Okay. No, il colore poi è proprio un metallo. Sempre grigio. Quello che è grigio. Può ricordare qualche animale nativo di giù, tipo un certo rinoceronte? Allora, i rinoceronti, no. Tu quando eri là hai visto i Loch? È molto simile ai Loch, solo che i Loch non sono interamente di metallo e non sono così grandi. Chiedigli se è un discendente di... viene dalla Nadiria, banalmente. Non so se mi possa capire. Io dico... c'è Cleto qua vicino, oppure no, è andato a vedere i cavalli? Per velocizzare sta cosa... se vuol parlare Miff, Nibel la traduce. Ok, va bene. Certo. Per velocizzare. Vengo dalla Nadiria, esatto. Sei una specie evoluta oppure sei sempre stato così? Ne ho visti pochi. Cioè, non ho visto la tua specie, però qualcuna non sono specie diverse di Loc, sono solo molto più vecchio. Sì, se vecchio. Ti hanno donato a questa famiglia vuol dire che sei qui da qualche generazione. Fa un flinch e dice: non mi hanno donato, io ho scelto di seguire Danny, il loro capostipite, fino al giorno in cui l'abbiamo seppellito. Sì, ti chiedo scusa, non era il mio intento dire che sia un premio. Hai una grandissima fonte magica dentro di te, ma non mi stai dando una buona vibe, una buona impressione, ecco. Immagino sia perché dopo così tanti anni di accumulo, il tar sembra una forma di arma per voi. Vedi che mi fa tipo, si fa così sul labbro e fa accumulo. Non è esattamente un posto dove posso rilasciare la mia energia, questo. Vero. Beh, c'è il mare. Non è un buon posto dove rilasciare l'energia. Che tipo di posto ti servirebbe? I deserti dove sono nato, le savane dove sono nato. Lì ci sono dei cicli, delle creature che si nutrono di energia e la consumano interamente senza lasciarne traccia. Ti fa male? No. Però potresti essere un target. Veniamo dal continente. Non ci sono persone, soprattutto nei tuoi confronti e nei confronti delle altre due, molto gentili. La donna dell'impero mi ha promesso che non avrei avuto problemi e che la mia famiglia sarebbe stata al sicuro. Che donna dell'impero? All'epoca era una bambina. Oggi non so che fine abbia fatto. Che nome aveva? Promezia. Quale? Name drop dopo 64 miliardi di anni? Perché non credo di averlo mai detto. Promezia Piscop. Eh già. È la... Chi è? Non lo sapete. È la principessa. Okay. Non lo sapete. Quanto tempo fa? È una delle promezze che ci ha dato un cognome. No, non abbiamo una promezza Piscop. Se avete una promessa senza cognome potrebbe essere lei. Fermi. Tanto gli rispondo. Dov'è? Anibel. Usa le lune, ok? Quindi dice tipo 1000 lune fa, che sarebbero un centinaio d'anni fa. Ok. Circa qualche... circa 100 anni fa, nel 1500. Hai visto la fondazione delle centrali? Certo. Qual è la differenza? Infatti. Quando secondo te? Viaggiavo con Danny, vivevamo in un mondo, la Solveria, senza le centrali. Ed era pieno di persone e sbatte il piede. Come quei due. Piero? Erano così comune? Solo io e Danny ne abbiamo incontrati 5, forse 6. I detesti. Nell'anno in cui abbiamo riaccompagnato l'angelo a casa. What the fuck? Senso Angelo? Erano quasi 2, forse 3 secoli fa. era venuto dal cielo e non era di questo mondo. Insieme a tre come loro, l'abbiamo riportato a casa. O meglio, gli abbiamo dato un modo per tornarsene e poi ci siamo salutati. E è tornato veramente? Sì. Che non... Quando... Guardo Mith, la visione del libro? Non penso. Non lo so. Stava combattendo con la Blanca. Sempre che io sappia. Però io avevo visto sempre la cosa dell'angelo contro il dio meccanico, sì, tipo. Sì, l'avevi visto anche nel, nella stessa cosa. Sì. Okay. Quindi pensi che se è una visione del futuro ritornerà di nuovo? Può essere. Come anche la divinità Fish, che venerano quegli altri, potrebbe essere reale. Non sempre il libro è giusto. Spero. I hope. E mi fa... questi angeli, cioè... Come si sono presentati a voi, nel senso... Non ho detto altri. Avevano... Sì. Ce n'era uno solo. Uno, ok. Questo, questa creatura... ultraterrena. E... si è presentata in qualche modo voi? Certo. Ok. Era ostile? No, o meglio, gli uomini di allora lo sono stati con lui e lui si è vendicato. Vendicato come? Credo ne abbia uccisi parecchi. Mai quanto quelli come loro. E come mai odi così tanto quelli come loro? Secondo me non è soltanto per sfortuna. Nella Nadiria non ce ne sono, perché gli umani di là hanno una filosofia diversa, un modo diverso di vivere la società, e quindi evitano che singole persone posseggano così tanto potere. Ma qua in Solveria voi siete molto più egoisti. Ho visto 40 generazioni di quelli come voi e non ce n'è stata una sola che sia stata diversa dalle altre. Per cui quando finalmente li hanno rinchiusi ero solo che contento. Invidiabile questa Nadiria. Esatto. Potrei trasferirmi. Non penso ti accetterebbero, lo sai, Nibel. Cosa? No, non penso ti accetterebbero. Non sono... Io ti sento normale. Sì, sì, l'ho laggato io. C'è stato mi ripeto ancora. Mi sono dimenticato. Non ti accetterebbero. Non accetterebbero. Non accetterebbero me, dici. Esatto. Sono molto chiusi da quel punto di vista. È incredibile che ne abbia visti due e siano stati disponibili a vedermi come utilizzavano Tar. Vabbè, l'importante è la filosofia loro. Se si può diffondere nel mondo, sono più che felice di farlo. Tutta questa storia di centrali, divinità, demoni, angeli... Se possiamo far ritornare il controllo del mondo a noi semplici e puri mortali... Vabbè, sarebbe bene. Taglio per andare un attimo da Adone Lieto. Vorrei chiedervi cosa state facendo. Io però prima devo dire, io ho tre promesse senza cognome. Ah, okay. Uno è la madre di Lieto, che non è lei chiaramente. Ciao, due... L'hai sentito il cognome a questo punto? Cosa? Il cognome l'hai sentito a questo punto? Sì, e non è quello direi. Cioè non è Pisco. No. E Pisco, sorella di Gideon, once again direi no. la principessa, scusate, sono quattro i nomi, non so contare, la principessa, che... sì, oppure la promessa trovata nella centrale di Oclica. Giusto. Non so perché quale qua. Quale di queste può avere più di 100 anni? Solo quella trovata nella centrale di Oclica. A meno che la principessa non ha... Questa non è... Non lo sappiamo. È un nome passato. Un nome che magari è stato ereditato, non lo so. Potrebbe essere una nuova promessa, segno una nuova promessa. Siamo a conto. La principessa è la moglie del figlio dell'imperatore. Sì, infatti. Non è quindi... di sangue nobile. Beh, per dire che non è che hanno... Sì. Comunque siamo a... totale di 9 promesse, perché c'è anche promessa alla puttana di... del bordello, quindi sta divertendo un casino piani. Io sono stanco. Questa cosa le promesse sta sfuggendo di mano. No, sono andato esattamente come doveva andare. Credo che se vuoi arriviamo sulla 15ª ora di fede. Vabbè. 1000. Poi è una promessa. Secondo me è tipo ha messo i nomi, ha fatto una lista di nomi, ha fatto una tabella tipo per quei numeri e poi ha rollato i nomi di tutti gli NPC e è uscito promesse 15 volte. Bello. Allora, Adone è rimasto fuori dal cancello a questo punto. Lo so, c'è un posto dove sedersi effettivamente o si deve sedere per terra? C'è il cancello, cioè il recinto. Mi siedo sul muretto praticamente. È di legno, però... Ah, non mi siedo lì. Quello, ho capito com'è. Sì, sì. Adesso ho capito. E... credo che Adone sia seduto un po' in basso e tipo... non sa che cazzo fare, sta strappando l'erba un po' dal nervoso comunque. Però lo vedi lì intento a trappare erba e Lieto nel frattempo si è tipo fa uscire una sigaretta da un meandro del giacchetto, tipo accende, guarda Adone che gioca con i fili d'erba, tipo li allunga, tipo oh, vai anche tu, e poi allunga. Adone si gira, guardi, c'è, perché no, la prende e a fumare a donne, quindi si droga e ammazza le persone, incredibile. Vabbè, tu non è che sei tanto meglio, qua non ha ammazzato nessuno per ora in questa sessione. E niente, Adone fa un tiro, poi dice grazie, figurati. Oh, che cavallo strano. Ha mandato via pure te? Sì, a quanto pare gli sto antipatico anche io. Ah. Uno. Allora sono gli avatar il problema. A quanto pare. Probabilmente dovremmo fare più domande da questa cosa. E continua a fumare, appoggiato al cancello. Spero che, secondo me, Mif avrà ficcato il naso e starà chiedendo per conto nostro. Dopo ci faremo dire qualcosa. Se qualcuno infila il naso nelle cose, quella è Mif. Mm-hmm. Vuoi ben dirlo? Non... Che fastidio. Ciao. Mi sarebbe piaciuto conversare con quella creatura. I mean, possiamo riprovarci? Non sembra... No. Molto. Non direi che è una saggia idea riprovarci. Cavalli in più, cavalli in meno. Non puoi pensare seriamente che quello sia una creatura come le altre. Non è un cavallo qualsiasi. I guess not. Però ormai c'è tipo definisci il qualsiasi, perché abbiamo visto letteralmente di tutto a questo punto. Ma no, ma quella chiaramente è una creatura magica di grandi talenti. Vedi che è partito un attimo ad ore. Il che differisce tantissimo tra le mezze, i pesci, uomo che abbiamo ucciso 2 giorni fa. Clearly. Ma certo, differisce. Ma allora, sacco, fermo Ika. Perché effettivamente questo è lo special interest di Adone. Cioè, canonicamente può farti un pippone missilistico da due ore in cui ti spiega nei dettagli perché non è come le Senkirie. Sì, e Adone credo farà proprio quello. Allora, lì... appunto, Adone fa questa cosa, però vedi un Adone che tu forse non hai mai... Cioè, no, tu... rivedi l'Adone un po' forse che hai visto per la prima volta, aspettate, rivedi l'Adone e no, umano. E non l'ha mai visto Lieto? Lieto no. E che già sì, dopo Lieto la no. centrale era partito per la tangente col sigillo demoniaco. Quindi è Zanzan che l'ha visto una volta. Vedi un Adone che non hai mai esatto. visto forse, un Adone studioso, appassionato e che ti sta raccontando di una cosa di cui non te ne frega nulla, ma lo fa perché si diverte. E Lieto t'ascolta per un po', tipo, si toglie la sigaretta dalla bocca, la guarda, e si fa la spegne per terra, e si appoggia al coso e non dice più niente. Però Adone continua, non è che l'hai fermato. Sofra, no, fra, fuori di testa. Vabbè. No, fra, troppo interessante. Poi vedi che a un certo punto finisce il discorso, un po' dice... di queste cose ne capivo, ne sapevo un sacco, Silas, gli sarebbe piaciuto un sacco vedere quel cavallo. Di che ci rimane un attimo in silenzio. E no, io non ero non con Biff e non mi ricordo, no, gli avevano già detto Biff, Silas, vabbè, ma posso... Vedi che torna a guardare l'erba, non strappa nulla, ma... ma un attimo... Botta triste. Si è sentito. Gli pesa la depressione. E... Lieto gli mette tipo una mano sulla spalla e fa vabbè, non ti preoccupare. Quando li avevo mangiati tutti non ci sarà più problema. E se ne va tipo. Due modi diversi di gestire lo stesso problema. No, a questo punto si alza e dice: guarda che non te lo lascerò fare, non ti lascerò toccare Silas. Tipo le mani. Sure. E anche la musica retta. Lieto. Vabbè, quel giorno comunque è molto lontano, quindi abbiamo quel giorno un po' di non arriverà. In ogni caso. Fidati. Questa è una musica molto più adeguata. È vero. No, fight! Vabbè. In questo, out of character, non mi ricordo benissimo cosa abbiamo detto ad Adone di Silas. Niente. No, avete detto che... Cioè, io so solo che Miff ha detto che... Innsbruck, non mi ricordo come si chiama. Il professore ha detto di non cercare più Silas. Ah, questo Atmo, sa. Sì. Sì, Adone sa solo che non deve più cercare Silas, ma non sa se gli è successo qualcosa. Cosa gli è successo? Va bene, non lo sa neanche Lieto perché non era lì, quindi. Ora, praticamente nemmeno Miff sa più di questo. Sì, sa. Miff c'era. Sì. Miff. Vabbè, sì, c'erano state delle tratte delle conclusioni, però esatto, c'era solo Biff di persona. Sì. Anche Adone ha idea di cosa sia successo perché ha avuto delle visioni, diciamo, però non è di materiale. Ritorniamo ai due col cavallo. Sentite che sta arrivando Cleto, quindi avete proprio l'ultima cosa di... Come si chiama Plangelo? Il cavallo guarda in alto e dice: sono passate veramente molte lune. Credo che si chiamasse Lovers. Non l'avevi capito? Non l'avevi capito? Bro, io non so. No, ripeti la frase. Credo che si chiamasse Lovers. Ma chi? L'angelo. L'angelo. E io non sono lì! Mi spiace. Ah. Le tragedie, quelle vere. Per te non vuol dire un cazzo, Miff, cioè... No, infatti, infatti, c'è. Vabbè, un altro nome da mettere alla lista. Mi tira fuori sta qui, no? Lovers... Presto l'aiuto... Presto l'aiuto, Glauco. Non lo so. Grazie dell'aiuto, Glauco, qui dice. Nibel in realtà è molto interessato alla filosofia Nadira... E tipo, gli porge la mano della speranza che Glauco gli porge la testa per poterlo accarezzare. Finalmente sì, ti lascia. Si lascia toccare. Okay, lo accarezzo un po'. Non sembra una cosa piacevole per nessuno di voi due, perché è metallo quello, quindi è un po'. Sì. Vabbè, ma non è l'intento. Da Nibel, sì, sì, tanto sì. Ha poca sensibilità nella mano, quindi non gli frega niente. E arriva Cleto. Che l'altra è rotta. Che inizia a spiegarvi come funzionano i cavalli. E intanto Glauco ti dice: potrebbero guarirti da quella cosa. Dalle dita? No, l'altra cosa. Ah, chi? I Nadiri. Ah. Potrebbe... potrebbe essere un obiettivo, però... potrei farlo anche diciamo... io, forse. Troppo presto, mi serve ancora. Lo rispetto. Quando arriverà il momento... se sarà possibile, mi piacerebbe avere... poter fare uso dei tuoi servizi. Se mi tieni lontani quei due, volentieri. Sì, lo farò. Non tanto da me, di me quanto dalla mia famiglia. Sì, farò in modo che non si avvicineranno più di troppo alla villa. Okay. Abbiamo aiutato il tuo padrone, comunque oggi era stato preso a botte da un tizio di una setta e l'abbiamo fermato e anche loro ci hanno aiutati, quindi... finché sono persone si comporteranno come persone. Più avanti non ti posso garantire niente. È proprio quello il problema. Finisce sempre che tutti sprofondano. Sì. Se il nostro piano andrà a buon fine, questa sarà l'ultima generazione che avrà questo problema. Cleto guarda, sì, ciao. Glauco guarda nel l'orizzonte, tra l'altro ha gli occhi coperti, quindi si gira a guardare in una direzione e scuote la testa e rientra dentro la stalla senza dire niente. Ok, Cleto, grazie per i cavalli. Allora vi ha cercato tre cavalli di stazza media, loro hanno una specie abbastanza muscolosa ma non particolarmente grossa perché è adatta per il terreno poco gestito dell'isola, e uno invece di stazza imponente per Nibel, ovviamente, e vi dice i nomi dei quattro cavalli, vi dice come trattarli, mangiano del fieno, ci sono un sacco di locande, di posti che vi faranno mangiare, cioè li faranno mangiare liberamente, e poi brucano l'erba per strada. E basta, cioè si raccomanda di trattarli bene, sono comunque parte della famiglia. Io guardo tutti i cavalli, vabbè, adesso non c'è bisogno di ruolare, però gli dico: se dovessero avere dei problemi, io li posso capire, ditemelo. E loro tutti e quattro hanno voci strane, stupide fra di loro, fanno la tua conoscenza. Uno di loro è molto espansivo, uno di quelli piccoli, quindi ti viene proprio addosso a cercare contatto. Sì, sì, le accarezzo tutti. Cute. Ti dobbiamo qualcosa, Cleto? Se mi riportate i cavalli intatti non c'è problema. Se, certo, se muoiono vi chiederò un risarcimento. Se non avessimo più bisogno dei servigi, hai delle succursali dove poter rilasciare a metà strada? Sì, ci sono. Ti fa vedere che i cavalli hanno tutti un come si dice, sulla sella un simbolo, un sigillo, che è quello della sua famiglia. che abbiamo anche quello, ovviamente. Ehi. Eh sì. Che oggi lo odierete tantissimo, secondo me, ma ne sono ancora più contento. Hanno questo gagliardetto. Hanno questo gagliardetto e dice: tutti sanno che appartengono alla nostra famiglia e se li tenete, cioè se li lasciate dove hanno una fattoria, siamo d'accordo che li tengono lì finché uno dei nostri parenti non li passa a prendere. Ok, allora sappiamo come gestirli in ma caso. C'è il cazzo di fuori o è solo l'ombra? C'è proprio il cazzo di fuori. Wow. Hai dei documenti che accertano che non li abbiamo rubati o qualcosa del genere? Di solito usiamo dei contratti. Del tipo scritto o del tipo magico? Del tipo magico. Possiamo fare gentiluomini? Mi voglio fidare di voi, cioè sembrate... Non sembrate il tipo di gente da rubare dei cavalli? No, guarda, anche perché... Se... Possiamo avere meno cose da gestire, meglio al momento. Infatti. Questo non vuol dire che non li trascureremo. Vero, sì. Patatone. Vi porge la mano e, cioè, per fare una solenne e formale stretta. Credo di averti detto tutto il mio nome. Comunque mi chiamo Nibel Bjornsson e... Se dovessi aver bisogno anche sì. In futuro contro quei tizi, magari possiamo aiutarti ancora. Ormai avete... di chi siamo venuti a cercare qui, magari sa qualcosa. Ah, giusto. Sto cercando un tizio, si chiama Schiriseto di cognome, Adelf. Quando ha raggiunto l'isola? Credo ormai... Quasi una... Fammi controllare. Circa anche. Non mi ricordo se era già 10 anni fa o era un po' prima. Che cazzo l'ho scritto l'anno qua? Vado a cercare anch'io. Lost. Se lo trovo prima. Dovrebbe essere o l'anno prima che è morta tua figlia o l'anno dopo, comunque. Mi sa che l'anno stesso. Ok, può essere. Quindi era nel... nel 10, sono 12 anni. Sì, una decina d'anni. Sì, a 2 anni, in realtà, quando è morta la figlia. Ok, sì. Fai quando vuoi che ritorno in character, dimmelo. Sì. Qualche anno fa, non è passato troppo tempo. Non mi dice nulla il suo nome. Conta che... Forse ero un ragazzino anch'io. E... Però ti posso garantire che non ha a che fare col culto cnidario, che è molto più moderno. È nato di recente, pochi anni fa. Ok. Potresti... I molti immigrati qua entrano in qualche setta per sopravvivere. Quindi non escludo che sia... Beh, o a lavorare nella centrale o è entrato nell'altra fazione, quella dei Timekeeper. considerando che è scappato da una centrale, la vedo dura da trasferirsi in un'altra, però considerando il tipo di persona, chissà. Grazie della dritta. In bocca al lupo con la vostra ricerca. Grazie a te per l'attività. Vi ricongiungete? Sì, prima che arrivino degli altri, che portiamo i cavalli, mi avvicino a Mif. Lieto, eh? Questa è Sara. Scusate, questa è Sara. Mif tipo ti guarda e fa... Huh? Ho capito. Non ne vuoi parlare con un vecchietto come me, ok? Okay. Mi porta avanti i cavalli. Dice che affretta il passo, no? E senti proprio per terra. No, tu non è che parli e poi te ne vai a caso con me. Cosa tu mi intendevi? Ah, la gioventù. Subito gli altri, quindi... Siamo tornati. Ecco qua i cavalli, scegliete quello che preferite. Quello grosso è il mio. A me piace l'immagine che vedete Adone da una parte arrabbiato, Lieto dall'altra a farsi i cazzi suoi. Ah, ok, no, pensavo che vedi i cavalli in realtà. Ovviamente il meme della persona nella stanza e arriva. Ah sì, Hands of the Press, yay, horses! Le riguardi, dico, se avete litigato? No, c'è stato un amichevole scambio di opinioni. Lieto dice cose stupide, niente di nuovo. Ok. Sono cavalli normali questi? Sì, sono tutti normali. Che colori sono? I cavalli dell'isola sono scuri, cioè tra il marrone e il nero possono essere anche a chiazze. Ve li faccio, scegliete voi. Abbiamo quelli marroni con poi la striscetta bianca e i calzini bianchi. Credo bianchi no. Adesso cerco anche... le colorazioni dei manti dei cavalli, ok? Fermi tutti. Fondamentale per la build. Anche la canzone di Uma Musume. Non si può fare, amico. No, mamma mia. Aspetta, fermi. Allora, c'ho qua un chart bellissimo, Bianic. Adesso ci dici di che colore mandalo. Sono i cavalli. Perfetto, l'ho mandato, è anche abbastanza grande, li vedi bene. Infatti ci sono un sacco di colori i cavalli. Sono cavalli cadetto, se li vuoi cercare. Aspetta. Io sono sardi. Sì. Ok, sono... Aspetta. Esiste un solo cavallo, no. Ed è quello bicromatico con gli zoccoli bianchi. Razza Cadeddu. Non so come si scriva. Ora mi fa venire il dubbio, però dovrebbe essere Cadeddu. Cavallo sarcidano. Aspetta. Ok, cavallo sarcidano mi esce fuori come breed. Okay. Aspetta. Voglio le immagini. Allora, dovrebbero essere... Sì, sono... Così, tipo. Aspetta. Possono avere delle macchiette... Sì, più chiare, sì. Bianche. Non un po' più bianche, però un po' più... No, però... Ok, sì, ci sta. Io voglio un dapple grey per il mio cavallone. Vi lascio quello che volete. Vi devo fare una domanda seria. Volete skippare il viaggio? O volete che facciamo la prossima sessione il viaggio? No, penso alla prossima sessione. Adesso nel frattempo dico agli altri. Abbiamo parlato un po' con Glauco. A quanto pare nelle sue centinaia di anni di vita ha incontrato altri avatar e hanno accolto un angelo e l'hanno riportato a casa. Quale cavallo volete? Un angelo? Così l'ha definito. L'ha mollato un po' lì, vabbè. Pensate che fosse un avatar, qualcuno che ha fatto un patto con gli avatar? No, era un una angelo. Creatura che veniva da un altro mondo, l'ha definita lui. Ah. Magari da dove veniva lo schifo di mia madre. Ma ha detto che si chiamava viene... l'angelo? Lovers. Sì, Lovers. Vedete? Dietro il fantasma di Siri. Ah! Deve essere stato il vento. Sì, è stato il vento. Yeah! Ok, Adone non sa, ma non ha mai sentito un nome simile prima. Non credo proprio. Dire proprio, cioè, oh, interessante. Io che devo fingere disinteresse totale. Se le visioni dei libri che abbiamo visto si avverranno, prima o poi lo incontrerai. Ti ricordi l'angelo? Dite che sia lui? Può essere. Guarda, non l'avevo visto... Parlando di quella visione in cui Adone combatte con un angelo, ok. No, sì, un dio meccanico contro l'angelo. Ma è bello. E quindi noi siamo odiati in quanto... Avatar / futuri Avatar. Sì. Perché siete egoisti? Secondo me. Adone scoppia a ridere. Va pienamente in contrasto con la natura Nadira, e lui è una creatura che viene dal Nadir. E secondo i Nadiri, l'individualismo delle persone, questo termine che Nibel conosce, porta a causa sempre a problemi, disgrazie, quindi la ricerca del potere. Beh, non posso dire che... Beh, è vero, tutta la nostra intera società è basata su questo. Tutta la nostra intera società è basata su queste persone intrappolate. Appunto. Forse. Comunque, una forma di egoismo. Il lieto fa letteralmente indica tipo se stesso e Adone queste persone intrappolate. È tipo... Lo so. Posto. Ma idealmente, se riusciamo in quello che dobbiamo fare, le persone verranno liberate. Io riuscirò a fare quello che voglio fare per i cazzi miei. Ognuno riuscirà a fare quello che voglio fare e andremo tutti a casa felici e contenti. Non era lui lo spawn del nuovo dio meccanico che abbiamo detto consumerà il mondo? No, sto sbagliando. E il dietro è scettico, ma non dice niente, tipo, vabbè, si avvicina al cavallo, tipo, lo tocca. Non è mai andato a cavallo in vita sua? No, non è vero, ce l'ha fa cavallo. Almeno una volta. Ti ricordi a riguardo. Adone ha cavalcato cavalli? Sempre con Kai iniziano, ma non sono valli. Sì, cioè, ci sta. Qualchena ci sta. Sappiate che posso... Che capisco quello che i cavalli dicono, quindi io c'ho ancora il virtuoso. No, è finito. Sì. Cioè, durava qualche minuto. Se dovessero avere dei lamentele, lo verrò a sapere. Dimmi, Nibel, chi è il più divertente di questi quattro? Ditemi la battuta. Non sono pronto a fare. Tiro un D4 per vedere qual è il più divertente dei quattro. Sceglietemi un numero. Di tre. Ok, quello di Tifa 3. Ok, ci sta. 2-2, io scelgo il 2. Quello di Lieto già 2. Ovviamente sempre in mezzo. Quello di Adone, qualche numero scegli, 1 o 4? Io 4. Ok, allora io scelgo l'1. Il mio cavallo è più divertente. Quello grosso. È tipo Gronk. Tira per il secondo più divertente. Esatto. Vediamo. Dai che fa un altro. No, boh. Tre. Che quello di Mif, mi pare. Il mio cavallo è posterissimo. Ha preso solo poi in una maniera estremamente seria. E noi andiamo in quel posto. No. Più tedesco me lo aspetto. Più tipo. Io sono un cavallo. Il mio lavoro è spostare la gente. E la spostiamo. Mi spiace dirvelo, ma ho consolidato la mia idea e il viaggio lo skippiamo. Al limite faremo un retcon. Ok. Voi seguirete la strada che vi hanno suggerito, giusto? Ok. Siamo da sud, facciamo il giro lungo. Dobbiamo fare il giro lungo che passa da di fretta alla centrale. Questo giro, no? Ah, prima passo dalla chiesa comunque per farmi curare. Sì, ci sta. Suppongo di non avere più l'effetto di come si chiama? A parte overpower, l'incantesimo che mi dà 20 punti ferita aggiuntivi. Sì, no. Sì, quello finisce dopo un'oretta. E io avevo perso tipo 4 punti ferita per la testata e credo qualche punto anche per il... perché mi sono rotto le dita. Vianic, non siamo più andati in chiesa, non sono riuscito a cambiare genere. Sì, quando fa questa cosa qua puoi cambiare genere e tornare maschio. Perfetto, torno maschio. Ok, qualcun altro vuole fare un cambio di genere? No, ma l'interazione che ha con Miff quando esci e sei uomo, Miff che ti guarda e fa molto meglio prima. Wow. Potrei dire lo stesso di te. Bosco. Ma sono un uomo sposato. Io. Però eri una donna single prima. Era una donna single prima, allora. Allora non è mai... No, non era una donna. Non era nemmeno single. Non hai capito la battuta di... No! Perché quando ha cambiato genere a donna, cioè era un uomo sposato per una donna single. Vabbè. Anche perché nessuno ha contattato Silas per chiedergli se andava bene. Ha contattato? Silas per chiedergli se era d'accordo con l'apparizione. O magari riuscissimo a contattarlo, stanotte nei sogni lo cerco. Volevo tantissimo fare questa cosa, perché mentre fate la strada consigliata, vi fermate in una di queste locande. Vedendo che avete i cavalli di Nadreus, vi ospitano tranquillamente, cioè senza farvi pagare nulla. Riuscite anche a mangiare, riuscite a rifocillarvi, quindi siete riposati. E poi vi proseguite il mattino dopo. E procede tutto tranquillamente, cioè girare per le campagne è estremamente sicuro. Non ci sono banditi, non ci sono mostri, non c'è niente di strano. Solo un sacco di edifici vagamente rotondi di muratura. E grandi campi coltivati con piante che non vi sono particolarmente familiari, che sembrano banane scure. A parte questa cosa, arrivate in un punto dove la vegetazione si fa molto fitta. Banane a dire. Non così scure. Dove la vegetazione si fa molto fitta e i cavalli devono procedere lentamente. Anzi, siete letteralmente in un bosco. I suoni degli animali sono molto fragorosi, vi occupano completamente il cervello, tanto che perdete un po' il senso dell'orientamento e del tempo, cioè non ricordate più quanto tempo siete stati in questo bosco, se non che a un certo punto vedete un clearing, un'apertura, e passandoci vicino, anche senza andarci di proposito, da lontano vedete che c'è una spiaggia scendendo da questo clearing, e siete qua. Uscendo dal clearing vedreste la centrale sulla vostra sinistra, che ha una grande area intorno nella quale ci sono tutti gli edifici collegati. La centrale è la cosa al centro, intorno c'è una zona non è recintata, ma è uno spiazzo pulito senza alberi, ma quello che vi colpisce è la spiaggia, perché sulla spiaggia stanno sfilando dei soldati con delle divise oro e nere. Abbiamo già visto delle divise. L'impero. Ok. Vedendole dice: riusciamo a girarle, a fare il giro più lontano possibile. Quello è l'impero. Possiamo stare all'inizio della radura. Facciamo il giro d'arco. Potete anche aspettare che se ne vadano. Non sembrano stanziati lì, cioè sembrano in movimento. Ma sì, dai, aspettiamo un attimo, magari. Dove si stanno dirigendo in questo momento? Infatti. Stanno andando verso la spiaggia, verso il mare. Scontate che adesso siete a sud, cioè il mare aperto. Quindi è la zona che tutti vi hanno detto che è molto pericolosa. Non ci sono navi attraccate? No. Non viaggiano mai le navi da questo lato. Okay. Cioè, è proprio per le emergenze. Perché dirigersi verso la spiaggia? Magari c'è un... vogliono fare un teletrasporto? Un mostro? Vediamo. Possiamo anche seguirli da lontano e guardare cosa fanno. Siete curiosi. Sì, sì, stanno andando nella spiaggia che è lì davanti a voi. Stanno fermi lì, li vedete. Ok. Sono abbastanza curioso, sì. La spiaggia di Azaba, che è quella davanti a voi, come è segnato nella vostra cartina, è il punto più a sud della Solveria insulare, o meglio, la penisola è la zona più a sud della Solveria insulare. Voi siete nella parte più a nord della parte più a sud, per capirci. A causa della sua condizione di essere a sud della Solveria, in un'isola, eccetera, è anche il punto più vicino ai territori berber, perché andando a sinistra si arriva direttamente in una penisola, in un promontorio, che è già quella che da noi è l'Africa. A separare dai territori berber Esboson c'è il Mar Senico, il centro del Mar Senico, che anche nel suo punto più stretto supera ampiamente le possibilità umane di visibilità, per cui guardando a sud si vede solo il blu infinito del mare che si accoppia col cielo, un quadro tutto blu, cioè non vedete i territori berber. Questo posto di solito è disabitato, data la posizione peculiare, è un punto pericoloso dal quale emergono innumerevoli mostri ogni anno. È necessario o fare delle spedizioni per scacciarli, oppure tenerli liberi finché non decidono di andarsene per i fatti loro. Eppure oggi sembra essere gremito di persone, quasi tutte condivise oro e nero, in vari stili, così come varie sono le maschere che indossano. C'è persino qualcuno a volto scoperto, con abiti gialli. Quelli disarmati si contano sulle dita di una mano. Voi siete lontani, nascosti nella vegetazione, per cui non sentite i loro discorsi, ma vedete solo che stanno marciando e preparando qualcosa davanti al mare. C'è un obelisco intorno al quale si stanno radunando, non dissimile a quello che Lieto vide durante il suo ultimo flashback. C'è un uomo che chiaramente sta dirigendo i lavori, un vecchio con barba e capelli bianchi, che si sposta con uno strano bastone, non lo usa per sorreggere il suo peso, ha semplicemente un bastone da passeggio. Ha una maschera singolare, diversa da tutte le altre, una versione grottesca di un essere umano, di un volto umano, solo da questa parte in su, con i tratti esagerati, poggiato sopra il suo volto. Si vedono solo le sue labbra e il suo mento, e vedete che le sue labbra continuano a muoversi, continua a dare ordini, continua a ordinare, a dirigere. La mimica corporea di tutti i presenti tradisce il suo ruolo. Tutti si inchinano e abbassano la testa per parlargli, quindi chiaramente è il capo. Ai suoi piedi, con i polsi legati e i vestiti sporchi, c'è un giovane biondo. Dal suo volto tumefatto non esce una sola parola. È lì immobile a guardare verso sud, verso il cielo e verso il mare. Al fianco dell'uomo c'è un altro uomo vestito di nero, senza insegne imperiali, senza maschera, senza niente, solo vestito di nero. In un singolare chiasmo il suo volto è il contrario di quello del vecchio. Ha i capelli lunghi e neri, mentre quell'altro ce l'aveva corti e bianchi. Li ha disordinati, mentre il vecchio era molto ordinato. Il suo volto sbarbato è scoperto, ad eccezione della mascella, corazzata dal metallo, quel metallo che simboleggia l'impero, meccanico. Voi non sentite nulla, o meglio, i vostri personaggi non sentono nulla, ma voi sentite tutto, perché c'è la scena dopo i titoli di coda. Da questo momento in poi sono disabilitate le memorie, grazie per aver partecipato. No, no, è Naya. Lo so che è Naya, porca troia. Magister, abbiamo finito, possiamo procedere. Mi assaporo il momento. È sempre bello vedere che vince ancora una volta il bene sul male, l'uomo sul divino. Vero, biondo? Magister non ha più detto una parola. Qualcuno ha teorizzato anche che sia impazzito. No, Devin, io li riconosco i pazzi. E lui è lucidissimo. Visto che abbiamo ancora un minuto, Mi ripetete perché è così importante che l'esecuzione avvenga qui? Non potevamo sgozzarlo in cella e evitarci un viaggio del cazzo in quest'isola di merda in culo al mondo civilizzato? Non era, stava vacillando. Il biondo avrebbe rotto il sigillo o qualcuno per lui. Ma questo posto è sulla ley line della Nadiria e nessuno verrà a salvarlo. La sua anima sprofonderà nelle profondità del mare e poi finirà sul piatto di uno di quei cannibali che vivono dopo il deserto. A dire il vero, non sono cannibali. E cazzo? Da quando parli? Vuoi che queste siano le tue ultime parole, biondo? Volevo dire addio ai miei amici, non mi interessa altro. Se muoio, smetterò di fare del male. Ti accontenteremo. Faremo arrivare i tuoi saluti ai tuoi cari, sapranno che sei morto da eroe, per proteggere il mondo. Da quando facciamo la carità ai terroristi? Da quando collaborano. Taci e fai un passo indietro. Questo lo vedono anche i vostri personaggi. Un terremoto. Così forte che viene avvertito ovunque nell'isola. Tutti i soldati faticano a restare in piedi. Voi cedete, potreste fare un roll, ma evitiamo, per essere atterrati. Cadete da cavallo, intendo dire. Il vecchio batte lo scettro per terra e inizia a fluttuare per non perdere l'equilibrio. Il giovane dei capelli neri cade in ginocchio, il biondo era già in terra, quindi non ha problemi. Un boato, uno scroscio d'acqua, una figura all'orizzonte emerge dal mare. La bocca e gli occhi del biondo si spalancano, il déjà vu più intenso della sua vita. È come nel libro. Se non si stesse muovendo, nessuno direbbe che si tratti di un animale, perché niente di quella taglia potrebbe anche solo per sbaglio rientrare nella categoria delle cose viventi. Eppure, la sua testa che esce dall'acqua si muove e sbatte gli occhi, e la sua mascella che si apre e si chiude come se stesse respirando è larga quasi quanto l'intera isola su cui vi trovate. Potrebbe inghiottirla in un colpo. Poi è 40 km di larghezza l'isola, lo ripetiamo. Poi emerge il lunghissimo collo, 6 volte più lungo dell'isola. Arriva fino al cielo, più alto di qualunque montagna che abbiate mai visto. Seguono delle braccia, in qualche modo, attaccate al serpente, che culminano in 2 mastodontiche mani umane, giunte come in preghiera, circondate da un rosario, le cui sferette hanno diametro superiore al chilometro, una lettera analogamente incisa su ciascuna, una lettera così grande che la vedete dalla vostra posizione. Le lettere formano chiaramente L-I-V-I-A-G-O-N, in modo che sia chiaramente visibile da voi. Ogni sfera ha il diametro di 1 chilometro, ci tengo a ripeterlo, ed è di legno. La creatura, che sembra proseguire per chissà quanti altri chilometri nelle profondità degli abissi, ha tratti umanoidi ma è fondamentalmente un serpente marino, un pesce di dimensioni impossibili. Dal suo corpo si sono formate vere e proprie cascate d'acqua, che tenta di ritornare al mare e che ora è immobile e sembra una statua o una improbabile formazione naturale. Contate, c'è tutta la marea che si alza, si abbassa. L'acqua vi arriva quasi alle caviglie, nonostante eravate nella terraferma, poi viene riassorbita dal mare e sembra che addirittura il livello del mare scenda. Ma c'è un uomo che non si fa confondere da queste cose, un uomo che ha visto di tutto nella sua vita e che deve completare la sua missione. Un uomo con una falce in mano, con la lama fatta di energia, e che non esita a decapitare un ragazzo per salvaguardare il suo destino. Era nato Fateless, era cresciuto Faithful ed è morto con Fated.